Benvenuti al, a quest'ultimo episodio. No, all'ultimo episodio. Suona molto male così, non ancora. Benvenuti all'ultimo episodio, episodio numero 44 del Focolare Elettrico, il nostro podcast che parla di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E tra un po' ci sarà anche qualcun altro qui con noi per continuare la nostra streak di puntate. Come dire, streamate in diretta su Twitch sul nostro canale che ci ospita sempre così piacevolmente piacevolmente appunto durante la settimana di Xbra tipo X che tra poco arriverà qui insieme a noi. E che dire, direi che a questo punto le nostre introduzioni sono state fatte, il podcast è iniziato, aspettiamo l'inizio della diretta per cominciare con la nostra puntata. Io continuo a disconnettermi a casaccio. No, sono io che premo pulsanti che non dovrei premere, dovrò cambiare il nome della chat perché mi sbaglio quella vocale con quella testuale. Eccoci qui, siamo pronti. C'è la chat che scarpita, attenzione, ovvero I am Luca Odis, ovvero Salla, ovvero forse Luca Odis, non lo sapremo mai. Chi può dirlo? Ormai dove inizia Buonasera. Luca Odis e dove inizia Salla? Chi può dirlo esatto. A questo punto? Ormai è tutto confuso. Buonasera. Un po' di musica di sottofondo. Dai. Buonasera, buonasera a tutti. Qualcosa a caso. Sarà anche un po' bassa la musica di sottofondo, alzo un pochino, vediamo se così va bene. Se è troppo alta me lo facete sapere. Come vedete sono qui con due ospiti. Beh, ormai che sono di casa, diciamo, ormai non potremmo dire che non sono più ospiti, ovvero adesso mi tolgo anche i pantaloni e Marco casa d'altronde. Bah, io non ho mai avuto pantaloni fin dall'inizio, quindi non so cosa togliermi. Vabbè, l'importante è che non si vedano in webcam, poi altrimenti Twitch ci dice quelle solo per chi è subscribe di livello 3. No, esatto. Quello è per l'OnlyFans di Edoardo. Esattamente. Invitiamo tutti a seguire. Beh, ma siamo sempre stati ospiti di ospiti di ospiti, diciamo. Beh, facci l'introduzione d'obbligo a questo punto, Edo, dai, quella che tutto il nostro pubblico si aspetta a questo punto. Introduci un po'. Ed ecco a noi gli ospiti del Focolare Elettrico. Abbiamo alla sinistra Jacopo. E alla vostra destra Marco. Gli invitati alla festa di X Bradipo X. Esatto. Sì, nella sala Bradipi. Che non esisteva, però. Vabbè, questa è una citazione della nostra infanzia. Era la sala Pinguino. Grazie, grazie. Troppo buono. Attenzione, grazie Luca per la birra. Mamma mia. Oh, è vero. Una birra da offrire. Esatto, sì. Intanto grazie Vorla per il ride, per l'host, grazie mille. Direi che ci siamo tutti a questo punto. Cioè abbiamo Luca, abbiamo Salla che sono la stessa per la sovrapposizione. Ma purtroppo organizzarsi è un po' dura a volte. Colpa mia. È arrivato Vorla. Direi che la puntata è ufficialmente cominciata a questo punto. Yeah. L'arrivo di Vorla sancisce l'inizio della puntata. Dai, direi che quindi Valorant personale, esatto. Vai, apriamo che partitone. Sì, sì, io sono un po' più tardi, Buffer, quindi più o meno ci siamo, dai. Spero di non averla fatta concludere troppo prima. No, dicevo, come deformazione personale, penso che, visto che, breve inciso, è appena finita la prima settimana di tech preview di Halo, continuerò a mettere multiplayer casuali di Halo. Non hai fatto una compilation con le tue migliori uccisioni o... Purtroppo no, perché sarebbe stata uno molto scadente e due molto corta, quindi ho preferito evitare. Diciamo. Sei streamato grazie un po', qualche clip da mandare in loop, lo troviamo adesso. Sì, magari una ne avrei fatta e poi, esatto, si sarebbe finita nel giro di... Forse devo chiudere WhatsApp perché mi sa che sentono le notifiche che fanno un casino porco. Quindi direi cominciamo con la nostra solita rubrica, visto che Diamo un minimo di introduzione, perché io ho fatto l'introduzione per il podcast, facciamo un minimo introduzione. Anche per lo stream che potete vedere. Beh, ormai forse qui ci conoscono già un po' ed è anche più diretta, perché nel nostro podcast sarà passato quasi un mese da questi due episodi. No, non, vabbè, no, un paio di settimane, mentre sì, qua è stata giusto giusto la settimana scorsa. Comunque siamo qui, io e Jacopo, come puntata speciale per il nostro podcast Il Focolare Elettrico. E un argomento interessante quello di oggi, perché chi potrà leggere il titolo di Edo potrà, come dire, avrà già intuito. No, potrà noi... non capirci un cazzo uguale, però non fa niente. Noi che, anzi, più forse sono io che tendo ad avvolere sempre titoli, non so, distinti, chiamiamoli così. La puntata del podcast si chiama appunto 10 su 10. 10 out of 10. E... IGN. Quello in piccolo scritto sì, negli appunti sotto. E appunto l'argomento di stasera saranno le recensioni nel mondo dei videogiochi, ed in particolar modo proprio come soprattutto il mondo dei videogiochi con il termine recensioni si possa spaziare da un capo all'altro dello spettro della definizione, perché, come dire, anche se così come il mondo, come dire, come l'intrattenimento videoludico, sto già usando i paroloni questa sera, mamma mia, si sono evoluti parecchio insieme al loro medium. Ma andiamo con ordine. Come stava dicendo Jacopo, bisogna iniziare sempre con le nostre solite rubriche. Esatto, vai, spazio alle vostre rubriche. Quale facciamo? Ormai sono le nostre rubriche, cioè, le nostre senso... rubriche. magari nel frattempo lancio a caso Multiplayer di Ice. No, in realtà questo, nel senso, la prima rubrica parliamo dei giochi che abbiamo giocato dall'ultimo episodio. L'ultimo episodio era una settimana fa, quindi in questa settimana abbiamo giocato da Wingfield, perché esatto. Cioè, quindi la digressione in realtà non è neanche così out of context. È perfetta, è perfetta, ci sta di brutto. No, vabbè, cioè, nel senso, è la cosa per me più importante che è successa in questa settimana, il gioco più importante che ho giocato, probabilmente anche l'unico, se togliamo quelli che ho già detto in altre puntate. E cioè, ma guarda, per quanto roba, riguarda me, cioè, per quanto riguarda me, possono benissimo riascoltarsi questa rubrica dell'episodio scorso, che è rimasta assolutamente uguale. Aggiornamento sulle carte che ti mancano, Marco, per favore. Tipo, me ne mancano due per finire la collezione del gioco base The Witcher. Prego, basta, Marco. No, non giocare a Gwent in The Witcher, per favore. E poi ho continuato con Isaac, in cui durante queste ultime, credo, due settimane ormai a questo punto, non ho fatto neanche un nuovo achievement, quindi direi che siamo stati... Perfetto. Grazie mille, Macmillan, per Tainted Lost. Veramente. Ma a questo punto sono io molto interessato, perché, come ho già detto e ridetto più volte, io gli sparo tutto, non sono i giochi per me, come abbiamo capito. E quindi io non ho avuto la fortuna di provare Halo in questa ultima settimana, e voglio sapere opinioni a caldo su Halo Infinite, multiplayer, tutto quanto, tutto ciò che è uscito. Ah, troppo da dire, cioè... Questa è la mia opinione. Ah, ok, contrario. No, tanta roba. Adesso cercherò di dire le cose, ma le dirò completamente senza un ordine, cioè un ordine completamente sparso. Con la filosofia del podcast, a cazzo di... cane. Anche della puntata, il bello è che ho censurato cane e non la parola. A membro censurato, esatto. A membro di cane, esatto. No, per me, io l'ho già detto... quando ho giocato la prima tech preview, perché sono stato fortunato, mi hanno piccato pure per quella. Per me, cioè, sembra per ora l'Halo, uno dei capitoli di Halo più belli di sempre, almeno come multiplayer, perché, come ha notato anche gente un po' più, diciamo, distaccata dalla scena, insomma, multiplayer, tipo Power, così, cioè gente che magari, capito, non sono questi ultra fan della campagna, questi ultra fan mega galattici, così, che però magari si ricordano di Halo 3, di Halo Reach, così. Tutti quanti gli elementi più, comunque, skill-based, più competitive, cioè, ci sono qui. Nel senso, non sembra qualcosa che è solamente bilanciato per il giocatore casuale, non sembra qualcosa di solamente bilanciato per il competitivo, poi magari capitava a volte nello 5 di avere cose che erano solo per uno o solo per l'altro. La sandbox è bellissima, la giocabilità è perfetta, cioè per me il gameplay di questo gioco è una cosa che proprio mi manca, dopo un po' che non ci gioco mi manca, che è una cosa rara, nel senso pochi giochi mi danno questa sensazione, perché se penso a Valorant non mi dà questa sensazione, se penso a Doom Eternal un po' sì, già per esempio, ma sono pochi giochi competitivi che riescono a essere così, non so, responsivi, coerenti come meccaniche che si incastrano, che ti fanno scoprire organicamente cose tipo, che ne so, uno mi ha lanciato una granata a plasma, io ho usato un equipaggiamento che ti fa rimbalzare le cose e la granata è tornata in faccia ed è morto. Cioè, io non sapevo si potesse fare, l'ho fatto così per provare ed ha funzionato. E penso che comunque il Repulsor sarà davvero un generatore di bestemmie casuale, cioè... Esatto, io sono andato a dormire con il sorriso per aver rovinato la vita di quella persona, ci sta, cioè, per me esatto, cioè è un mix di multiplayer comunque frenetico, bestemmie, cose che volano, gente che ti fa infuriare, cioè io ho avuto tipo un esaurimento nervoso perché non riuscivo a guidare il Warthog e il Ghost in una partita, perché era la prima partita che facevo con i veicoli, ma perché anche la guidabilità dei veicoli è importantissima, perché vabbè, ovviamente per me il Warthog, cioè, è anche una cosa di importanza sentimentale, è un pezzo decore il Warthog, il Puma. Però cioè, mi fa piacere vedere così tanta gente anche che magari non è appassionata, comunque non ha legami affettivi e così, riconoscere, cavolo, questo gioco sembra proprio divertente, sembra bello, sembra molto preciso, molto efficace, molto efficiente con le meccaniche che ha, qualcosa come il rampino anche, che magari non è così integrato, non è così, cioè non sembrava così Halo, così integrato all'inizio, si è rivelato essere una delle aggiunte più, non so, più belle, più organiche dell'insieme, no? Pienamente d'accordo. Per me questa è l'idea generale. Poi ovviamente ci sono tante sbavature, tante imperfezioni ancora da risolvere, anche se ne hanno risolte tantissime già dalla prima preview. Allora, sono tanti problemi ancora da risolvere, ma cioè, overall è questo, insomma. Fa estremamente piacere questa cosa, perché anche se se Halo mi tocca ben poco, il vedere che comunque un IP così storica abbia diciamo ritrovato se stessa, no? Perché da quanto avevo capito io, i titoli precedenti ad Halo Infinite, un po' si era persa questa cosa. E niente, è sempre bello, fa sempre piacere che, come dire, ascoltino, che riescano a capire quello che vogliono il giocatore e che ci riescano, perché poi è un vantaggio per entrambi, noi ci divertiamo e loro fanno soldi, in poche parole, perché penso che nonostante il multiplayer sarà gratuito, penso che comunque il successo anche monetario del gioco probabilmente avrà una certa conseguenza per via della qualità del lavoro. Sì, infatti, sicuramente. No, ma è incredibile quanta roba già hanno aggiornato, hanno cambiato, hanno migliorato rispetto alla prima preview, anche ascoltando il feedback. Esatto. Tipo, che ne so, il design delle medaglie, il suono di alcune armi, il radar. Che altro hanno cambiato? Hanno aggiornato tipo... tante cose che, cioè, mi ha anche stupito sapere quanto fossero facili da... Cioè, mi fa piacere sapere quanto sono facili da aggiustare, tra virgolette. Sì, no, rispetto anche a livello di, diciamo, giocabilità, proprio a livello di fluidità di gioco, dei menu, eccetera. Cioè, adesso, secondo me, c'è ancora un pochino da fare, ma rispetto a 2 mesi fa... un altro gioco, cioè letteralmente un altro gioco, non c'è paragone. Dai Marco, fai un intermezzo tu rispetto a me e a Jacopo, che tanto io dovrò fare un piccolo rant come Jacopo, quindi spezziamo il rant un pochino. No, no, perché dai, si parla di Halloween. No, allora facciamo tutto di fila. Io il mio piccolo intermezzo l'ho detto in realtà, poi Jacopo ha continuato, però era quello il mio piccolo intermezzo, che sono molto contento per tutti gli appassionati di Halo. Assolutamente. Congratulazioni. No, io anche questa settimana ho giocato fondamentalmente solo ad Halo, cioè di nuovo solo ad Halo Infinite, e in realtà poco altro in generale, ma vabbè. Mi sono cuccato un bel po' di ore nella modalità di training, quindi nella modalità allenamento e nella modalità di, diciamo, quella per trovare le armi, che si chiama Weapon Drills. Mi piacciono le nuove armi, mi piacciono le nuove skin delle armi, perché molte, se non sbaglio, sono state modificate. Sono tutte un po' più bianche da quello che ricordo io. Shock Rifle è molto carino. Per questo vi rimando anche alla live di Vorla, che ha parlato approfonditamente delle nuove armi introdotte. Boh, non lo so, sono molto d'accordo con quello che ha detto Jacopo, ovvero è un gioco, nonostante sia una tech preview, è un gioco che non ti fa venire voglia di smettere, o comunque ti fa venire voglia di ricominciare. È un gioco estremamente divertente, e la cosa che un po' mi ha colpito è che è un gioco di facile lettura, cioè fondamentalmente si possono fare una marea di cose con il rampino, con i nuovi equipaggiamenti, con il climb, con lo scatto, eccetera. Però le mappe basta giocarle due volte per capire dove devi andare, cosa devi fare, quali sono i punti strategici, che per un'arena FPS è la base, cioè nel senso secondo me è molto difficile rendere qualcosa del genere, e secondo me ci sono riusciti davvero alla grande in tutte le mappe, poi mappa più, mappa meno, però. Ma per restare. In che senso, Luca? Luca, è il Death Stranding degli Halo, questo, no? Esatto. Oppure per restare. Il Dark Souls in degli tema... Halo. Esatto, per restare in tema con l'argomento di stasera, you feel like Master Chief, praticamente. Esatto, you feel like the Master Chief. Esatto. No, io non ho niente da dire, cioè. Non riesco ad avere giudizi negativi, diciamo, verso questa tech preview, a parte, vabbè, gli aspetti prettamente tecnici, tipo i palesi bug, tipo il bash infinito, se così vogliamo chiamarlo. Vabbè, già Marco, risolto, tra l'altro. Esatto, Marco, ti do una breve spiegazione. Sostanzialmente, sai che su Halo si può dare il colpo con il calcio dell'arma, o un pugno, cioè, diciamo, che si chiama bash. Praticamente, come un po' in tutti. Esatto. Sostanzialmente c'è un bug per cui se devi ricaricare un'arma, o meglio, se puoi ricaricare un'arma e ti parte l'animazione del, appunto, con cui ricarichi l'arma, con una combo di tasti tu puoi sostanzialmente prendere a pugni l'avversario, cioè dare tipo sferzare n pugni nel giro di un secondo, certo. E quindi... Perché normalmente ci sarebbe un cooldown tra un pugno e l'altro, esatto. Immagino. E capisci anche che dal momento in cui esiste il rampino, la cosa non è proprio simpatica, perché tu hai 16 pugni ad uno, con il rampino vai su un altro, dai 16 pugni a quell'altro. È tipo Jojo, allora. Diventa, giusto, un episodio di Jojo o di Dragon Ball, a questo punto, di Goku che vola in giro e... I palesi bug tipo che hanno fuso un PC. Quale PC hanno fuso, Salla? Poi il PC del buon Shinjita, purtroppo dopo un po' si è arreso, giustamente. No! Ma in che senso? No, gli si è paccato proprio? No, penso che si sia surriscaldato, non che si è rotto proprio. Spero. Ma quello io... Non ci ha aggiornato sulla sua salute. Ti fai due uova e poi ricominci. Esatto, sì, ci butti sopra qualcosa. Tra l'altro c'è questa cosa che adesso mi ci ha fatto pensare, riguardo la leggibilità. Praticamente le ore di PvP erano limitate, cioè tu potevi fare training tutto il tempo, questo weekend, da venerdì a lunedì sera praticamente. Però l'accesso al PvP o al, diciamo, gioco contro i bot era limitato a delle specifiche ore. Per noi italiani, quelle, diciamo, più vivibili erano dalle 7 alle 11 di sera, essenzialmente, esatto, ogni giorno. Quindi io entro, diciamo, la prima sera utile, che purtroppo era anche l'ultima, domenica sera, e ci sono già Andrea, ma soprattutto Edoardo, che urlano, letteralmente urlando dei posti e urlano cosa fare, urlano dei comandi. E già dico, cioè, cazzo, è una beta, già comincia a tiltare. Cioè, già... Grazie, già per il sub. Scusate. Già... mi fate tiltare che state i Uber competitivi già in una preview, e quindi Flame dopo una partita già li insulto, ma letteralmente penso una o due partite dopo comincio a farlo pure io, nel senso è talmente facile, vabbè, a parte per i ping, ma è talmente facile capire dove sei e dove sono i nemici, cioè dove devi andare, che letteralmente penso in una partita dove non avevamo più i segnali, perché in alcune partite c'è una modalità che si chiama Strongholds, tu hai dei segnalini che ti dicono A, B o C sulla mappa, cioè sul li vedi in sovraimpressione, quindi sai sempre dove è A, dove è B, dove è C, esatto, perché devi andare lì e controllare questi territori essenzialmente, no? Devi controllarne due su tre minimo per fare i punti. E quindi c'era questa partita che noi stavamo facendo su una mappa che ha la modalità Stronghold, quindi tu sai dov'è A, B e C, ma non era Stronghold, era Deathmatch, era Slayer, e stavamo chiamando A, B e C, perché ci ricordavamo già che quello è B, quello è A, quello è C, e in alcune mappe addirittura ci ricordavamo già mid, destra, sinistra, rocket, cioè dove sapevamo, ci ricordavamo le power weapon, ci ricordavamo... cioè abbiamo già fatto una capture the flag, non mi ricordo se eravamo noi quattro o noi tre, io Luca e Shinjita, non mi ricordo se c'era anche I am Luca Oddis, il buon Sal. In capture the flag, quattro, sì, forse eravamo già in quattro, bellissima, cioè abbiamo fatto una partita capture the flag tattica, cioè con le chiamate, dicendo ora facciamo questo, pushiamo, non pushiamo, prendo la bandiera, tu prendi la bandiera, io ti difendo, andiamo qua. Già, ma in certo, una preview. No, cioè... infatti, cioè, quello poi esatto, magari, cioè, diciamo, da, fra molte virgolette, casual gamer, nel senso, non da pro gamer, riuscire a fare qualcosa del genere subito dopo letteralmente 2 ore di gioco, perché comunque per me era il primo weekend di PvP multiplayer, ma penso, forse Andrea aveva giocato un altro po', ma penso che Jacopo appunto l'ha appena detto che era per il primo, Luca idem, cioè comunque da giocatori appunto non competitivi, mi sembrava comunque un bel risultato per diciamo in generale per 3-4-3 a livello proprio di leggibilità mappe e facilità di lettura, insomma, è una cosa che a me ha lasciato molto molto sorpreso in positivo, e boh, raga, non lo so, dicevo oggi anche con i ragazzi del gruppo di Alitalia, ma cioè davvero adesso dobbiamo aspettare Infinite e tornare a giocare alla Master Chief Collection o allo 5 a seconda dei casi, cioè orco, è vero, non lo vogliamo fare. Ci tengo a dire che noi siamo comunque giocatori di Halo, almeno io e Edo e Luca abbiamo giocato abbastanza Halo, quindi qualcosa già ce lo abbiamo gratis, no? Nel senso, sì, quello sì. Il concetto degli scudi, il concetto, cioè più o meno il feeling di alcune armi, il concetto delle power weapon, cioè sono concetti che magari un giocatore di Apex o che cazzo ne so di Valorant non ha, però ovviamente se sai sparare, nel senso, comunque. Sì, sì. Come si è visto, diciamo, guardando la live di Power, che magari giocava un po' COD style, però ragazzi ci pigliava, no, cioè, però si ricordava anche, lui ha scoperto senza sapere che c'era, mi sa, ha scoperto il trucco del pugno infinito, perché era un bug di Halo 2, quindi lui si ricordava, ha detto fammi un po' provare se c'è ancora questo bug, se l'hanno rimesso, perché ovviamente in altri giochi non c'era, tipo, questo dettaglio me l'avevo perso, figo. Gli è sfuggito, riuscito da Halo 2, ma che strana sta cosa. Però vabbè, lui magari è uno un po' più appunto esperto, sono curioso adesso ovviamente nella prossima tech preview. Ah, non so se l'hai detto già tu, Edo. No, esatto, infatti lo volevo dire. Dai, vai, che praticamente si può scrivere chiunque, sbaglio? Esatto, praticamente da quello che si è capito meglio dalle mail arrivate, da quello che hanno detto appunto 343, la prossima flight sarà aperta a tutti quelli che hanno, cioè che sono iscritti al programma Halo Insider. No, neanche. Mi sa che basta che scarichi l'app Xbox Insider Hub. Ah sì? Anche, diciamo, retroattivamente? Perché in pratica quell'app, come funziona? Tu la scarichi e o hai un codice, diciamo, esatto. Diciamo, o hai un codice che tipo ti dice tu, diciamo, il tuo account specifico è autorizzato, tipo quando io partecipai alla Tech Alpha di Flight Simulator. Il mio account era automaticamente autorizzato a scaricare perché ero sviluppatore di accesso e come questa ultima preview, come noi ci avevamo la cosa già nell'app, tipo tu puoi partecipare alla beta pubblica di Minecraft se vuoi, in qualsiasi momento, cioè nel senso, da quello che ho capito, non so però su Steam come funziona, cioè come si fa da interessante PC. Potrei quasi quasi darci un'occhiata anch'io a questo. Beh, esatto, come diceva Salla in chat, comunque molti hanno ricevuto anche dei codici invito, dei codici amico, diciamo. Quindi basta inserire un codice anche per chi ha Steam, esatto. Chi è da PC può inserire questo codice aggiuntivo. Infatti poi controllate le mail magari, perché è possibile che 343 abbia inviato un tramite Halo Waypoint una mail dicendovi che cioè nei prossimi giorni avrete istruzioni per giocare alla flight e in più vi hanno dato un codice amico. Quindi un codice gratuito da dare a un amico casuale per farlo giocare alla preview, insomma. Che avverrà, a sto punto diciamo tutto, che avverrà questo weekend partendo, se è come la settimana scorsa, mi sembra dalle 19 di giovedì la flight sarà aperta, ma si potrà giocare solo in solito training mode, esatto, mentre da venerdì dal venerdì, quindi dalle 19 alle 23 e dalle 2 di notte alle 6 di mattina ci saranno le finestre di multiplayer, che questo fine settimana comprenderà Big Team Battle, quindi 12 versus 12. Bordello. Sarà un bordello atomico. Interessante. Beh, però per te, diciamo, tu sei un po' meno, sei... Sì, per me magari un po' meno, ma io parlo novizio. Per la community assolutamente. No, generale. Dico, tu che sei un novizio, magari training mode ti sarà più utile per... Vedremo, se riesco a finire almeno The Witcher 3 prima di... Non credo, ma... E comunque, okay. Riprendo un attimo anche le redini, perché per quanto mi piacerebbe restare qui anche un'altra ora a parlare solo della beta di Halo, forse conviene anche continuare. È ora di andare on topic. Con il nostro episodio. Aspetta, ultima cosa, download updates. Esatto, concludendo giusto con la nostra rapidissima... Esatto, velocemente, rubrica. Un minuto. Super Mario e Chris Pratt. Cosa ne pensate? Io posso dire una cosa? Per me il più bello di tutti è Seth Rogen che fa Donkey Kong. Per me è perfetto. Per me è perfetto. E amo, ovviamente io amo Jack Black, quindi Bowser sarà perfetto. E Charlie Day come Luigi, per tutti i fan di It's Always Sunny in Philadelphia, sarà il Luigi più pieno di metanfetamine della storia, cioè più pieno di droghe. Sarà il Luigi più esperto sulla legge per uccelli. Esatto. Lord Law. Però Chris Pratt. Veloce. Ma chi è che non ama Jack Black? Cioè, c'è qualcuno che non ama Jack Black. A quanto pare sì, cioè, sta sul cazzo a molti. Questo pure per me è uno shock. Vabbè, lì perché sono persone tristi che preferiscono l'odio all'amore, ma quello è un altro discorso. Cioè, Jack Black va bene. Cioè, Black è fantastico, non gli si può dire nulla. Però, Chris Pratt. Con Chris... Però Chris Pratt. Anche mi fa ridere perché nel video lui dice "He's so cool". Non sa neanche lui cosa dire. Boh, dai, secondo me ci sta, per me ci sta. Io sono curioso. Perché no, adesso... in fondo, perché no? Mi sorprendo che non siano usciti già tipo parecchi meme, magari di Mario, sai? Sono usciti già. Sì, però mi immaginavo cose tipo, non so se non ne ho viste, io me lo sto inventando adesso, però mi immaginavo di vedere in giro qualcosa di tipo Mario messo tipo così davanti agli Yoshi a mo' di Chris Pratt davanti ai Velociraptor di... Sì, sì. Di... Ah, ok, sono usciti, non li avevo visti. Io ho visto anche il meme con la versione di Super Mario dal gioco, quello che so fare io, Mario Plus Rapids Sparkle Pop, cioè il trailer dove lui ha due armi, e quindi c'erano tutti i trailer di Star-Lord che ha le due armi con il parallelo, certo. Con Oddio, due... cosa è questo? Vedremo come sarà il secondo film di Mario, tanto possiamo dire che forse è peggio del primo, di sicuro non lo farà. Il primo c'è una fanbase enorme. Non posso immaginare. E... aggiungo una seconda cosa al download updates. Che... Oh, attenzione! Che così, giusto per dire, perché va detto, abbiamo parlato di Halo per mezz'ora e io continuo a parlare di un altro gioco. Non era un'offesa, era solo una constatazione. È uscito il DLC di Outer Wilds, come mi ha fatto notare poco fa Jacopo. Compratelo tutti, giocatelo e poi considerate dopo se avete fatto bene o male, ma sicuramente avrete fatto bene. I soldi a loro si devono dare sempre. Qualunque sì, li direi, guarda, avessi tipo... Sei tipo uno di quei tubi a pressione dove si mandavano i messaggi, ti butterei diretto ai loro uffici, li butterei i soldi dentro, cosa del genere. E... Dicevi, Edo, scusa? No, non ricordo se è di questa settimana, cioè non è una notizia proprio legata a un videogioco, ma è un po' legata a un videogioco, ma non ricordo neanche se è di questa settimana, ma lo dico uguale. È uscito il secondo trailer di The Witcher, della seconda stagione di The Witcher. Ah, non l'ho visto. Ah, giusto, è vero. Casomai. L'ho visto ovviamente, un cosa po' che... casualmente, però magari se qualcuno lo vuole... Ci sta, recuperare. Io sto giocando adesso The Witcher. Ho visto Black. L'immagine di Vesemir, ma non ho visto il trailer, devo vederlo. Si vede Vesemir nel trailer. Molto bene. Ah sì? Quello non l'ho visto, allora, perché ne sono usciti un paio tipo teaser in giro, come... E giustamente, come anche Luca fa notare in chat, direi ottimo commento relativo ad Outer Wilds. Dice, fatto male se... nascita, bravo Luca, bravissimo. Diceva Luca: Outer Wilds, top. O avete fatto bene a comprarlo, o avete fatto male a nascere. Giustamente, beh, sì, le opzioni sono quelle, insomma. Però la seconda è un po' ridondante. Di solito è facile che uno abbia fatto male a nascere, però. Quindi abbiamo finito le rubriche. Vabbè, le rubriche le abbiamo finite. Adesso dobbiamo aggiungere anche il momento Halo fra un po' del The Point. Allo, del tipo invece, ok, finita con le battute ignoranti. Ma io lascio una tu, Edo, sei arrivato, come dire, ci hai beccato poco prima di entrare in live, però ecco, non hai sentito quanto effettivamente io e Jacopo stasera siamo cari per l'argomento di stasera, ci siamo caricati proprio, sai, con il montaggio iniziale, con noi fuori che davamo ci allenavamo in palestra con il sacco da box e cose del genere. Siamo molto salati, carichi, siamo molto pronti a spaccare i cosiddetti deretani e... Ma immagino che voi siate abbastanza incazzati, perché poi comunque siete proprio dentro al mondo, quindi Io sono pacifista per natura, però... Però, non so, tuttavia... Stasera tuttavia, ci sentiamo carichi, solo per dire questo. Quindi, allora, prima di cominciare, il pretesto, come l'altra volta. Vai, il pretesto, esatto. Anche questa è... Perché va detto... fammi fare a me l'introduzione, perché poi il pretesto è vostro, come stavo per dire. Perché vai, prego. Effettivamente, quando Jacopo mi ha proposto questa puntata da fare insieme a Edo, mi ha raccontato una storia, diciamo, è partito tutto da un aneddoto un po' come la puntata precedente. È vero. Ed era un aneddoto interessante, come dire, una discussione nata da qualcosa che adesso lascerò introdurre meglio loro, ma che appunto è nata da un loro discorso, e adesso mi piacerebbe che loro due lo riproponessero al grande pubblico, diciamo, la drammatizzazione, la versione, esatto. Luce Sipario, no. Azione, per non fare dramma toglieremo nomi specifici, però essenzialmente sono entrato su Discord mentre stavo lavorando in orario lavorativo, però cioè così per farci compagnia. Combina forse togliere più questo che... No, vabbè, ma per farci compagnia di solito siamo lì in silenzio, non diciamo nulla di coperto da NDA. Però gli dico, vedo, niente, prima guardavo questo streamer che stava streamando Psychonauts 2 e che si è alzato durante una cutscene e tipo si lamentava che c'erano troppi filmati che interrompevano il gameplay, e c'era gente in chat che gli dava ragione, sì è vero, non sanno dosare, Double Fine non sa dosare i gameplay con i filmati, e tra l'altro questo si è alzato e andato via durante una delle cutscene più belle di tutto il gioco, cioè più divertenti e anche più importanti, diciamo, dipende dal punto di vista. E questa cosa, un po' per, ok, ammetto, vicinanza emotiva, cioè nel senso... bagaglio emotivo, letteralmente mi ha dato fastidio, cioè riconosco che ho un problema perché è uno dei miei giochi preferiti di quest'anno, e qui avevo detto, abbiamo cominciato questa discussione su cosa vuol dire portare un gioco in streaming, cosa vuol dire commentarlo, cosa vuol dire, cioè una discussione che poi in realtà, cioè, ha divagato abbastanza da quello che... Sì, sì, sì. Fino a finire, diciamo, in quali sono, fra virgolette, le responsabilità di uno streamer, di un, comunque di un recensore in generale. No. Che poi, secondo me, sono un po' cose... Cioè, non un po', sono cose abbastanza collegate ormai, perché è inevitabile. Sì, come avevo più o meno, non so, cercato di introdurre io prima, quando si parla di recensioni dal mondo dei videogiochi, adesso... Non sono semplicemente gli articoli su, vabbè, riviste non esistono quasi più, ma diciamo sui siti, o i video recensioni fatti da, come dire, da tutti gli autori di siti come IGN, aiutami Jacopo, dammene altri. GameSpot, EveryEye, Multiplayer.it, assolutamente. Tom's Hardware, magari fogni tanto qualche recensione. Tom's Hardware, Tech Games Italia. Esatto, Easy Allies, quanti ne volete, cioè, tutti quei voi. Tutti questi, ma soprattutto visto che in maniera non ironica, però come dire che ci sta, diciamo, proprio stasera non è a caso che abbiamo scelto di fare questo episodio come streaming su Twitch, perché anche questa piattaforma e tutte, diciamo, quelle tra virgolette legate ad essa, quindi mi viene in mente principalmente YouTube, nel senso che molte personalità da una parte hanno anche un loro canale sull'altra piattaforma e le due cose si fondono molto spesso. E quindi sì, cioè, si va appunto dai recensori professionisti a quelli, a noi poveri, permettetemi, tre cazzoni che fanno gli streaming su Twitch. Adesso mi muto. Che fanno gli streaming su Twitch, appunto, e che a volte non ci fanno caso, a volte non se ne rendono conto, o forse anche sì, e di quanto possono influenzare un mercato del genere, perché alla fine è questo. Adesso non dico la maggior parte del pubblico, però forse quasi, di sicuro è più probabile veda un videogioco prima qui che provarlo magari lui direttamente, anche, o anche solo andarlo a leggere dentro un sito di quelli che abbiamo citati prima, che si occupano appunto professionalmente di recensioni. È più probabile che lo incrocino per caso su Twitch, su uno dei canali che seguono, piuttosto che andarselo a cercare effettivamente su un sito come IGN, eccetera eccetera, o magari quindi... neanche per caso su Twitch, insomma, magari lo vanno proprio a cercare. Assolutamente. No, poi c'è una considerazione da fare, che spesso comunque le recensioni scritte nessuno le legge, leggono solamente il voto e i commenti sotto e vanno a insultare gli altri. E, quasi... e ammetto di essere io uno, no, cioè un colpevole di questo. Ovviamente, io... ma saremo tutti colpevoli dei peccati, no, che diremo, cioè, stasera, probabilmente. Io ovviamente leggo recensioni ultimamente, a meno che non siano più che recensioni, che non siano degli articoli fatti su una certa cosa, non lo so, un certo aspetto del gioco. Però ancora mi guardo qualche recensione, qualche video recensione, diciamo, su YouTube o altri canali. E per me è, come dire, un po' più affidabile per alcuni giochi. Cioè, nel senso, per alcuni giochi magari è giusto avere l'esperienza non filtrata di vedere qualcuno che ci gioca e farsi un'idea. Per altri, secondo me, è meglio avere un'opinione più posata, più, come dire, professionale, cioè più è per forza di cose, se devi scrivere qualcosa e dire qualcosa, te per forza ci devi pensare di più, nel senso, se devi rielaborare un minimo i concetti che stai esprimendo, di solito. Poi anche lì, però sì, cioè, questo discorso che facciamo stasera vale per entrambi, cioè nel senso, che cosa porti in streaming, come lo porti, che cosa recensisci, come lo recensisci. Questo è un discorso che abbiamo toccato migliaia di volte, nel senso, durante il podcast, anche nell'episodio scorso, quando parlavamo di Prey. È stato l'aneddoto. Esatto. Quindi c'è un discorso enorme. Infatti, se non sbaglio, la creazione di questi due episodi è abbastanza collegato, che forse nel discorso iniziale tra voi sì, e sì, fondamentalmente era uscita... parte di un unico grande discorso, bene o male. È vero. Infatti poi abbiamo separati, cioè, non ci mi sta, perché ho visto tutta la roba che abbiamo detto l'altra scorsa, non penso che uno stream di 4 ore avrebbe potuto mantenere meglio, troppo meglio separare la serie di stronzate che poi saremmo andati a dire tutte, esatto, un po' eccessivo. E quindi ecco, cioè, quindi guarda, da dove iniziare? Troppa roba. Domanda, è quasi quello, no? Poi con la nostra filosofia del, come dicevo prima, a cazzo di non dico cosa. mi farà sempre ridere adesso. Andiamo a cazzo, non so, come ci vengono in mente le cose, le diciamo come al solito. Io ho... Ok, cioè, allora domanda... Volta... Vai. Allora c'è una domanda calda per voi, perché alla fine vai, è anche quello. Parlando di streamer, è appunto una cosa che, come dire, ci tenevo a citare anch'io, è appunto anche tutta la questione del day one, no? Di come appunto una parte fondamentale di Twitch sia anche quella in cui certi streamer che sono volenti o nolenti diventati questi, usiamo la parola recensori, anche se non so se è proprio quella più adatta, però diciamo queste figure nel mondo dei videogiochi, ne siano consapevoli e appunto sentono quasi obbligati a fare la live del day one di particolari videogiochi, ovvero in cui devono streamare un videogioco il giorno dell'uscita per introdurlo al pubblico, sì, per attirare un pubblico interessato anche a tale videogioco. Tipo oggi New World, insomma. Tipo oggi New World, per esempio. Assolutamente perfetto, direi. Stavo giusto controllando adesso, perché ho la lista degli streamer, diciamo, seguiti davanti agli occhi. Buona parte di questi sta giocando proprio a New World, perché oggi, insomma. Ok. E allora io comincio subito con una provocazione, perché dicevo, stasera siamo arrivati carichi. Quant'è, secondo voi, e soprattutto senza fare nomi o senza entrare troppo nello specifico, la percentuale, diciamo, di queste persone che secondo voi non hanno proprio idea di quello che, la maggior parte delle volte, di quello che stanno parlando, o perlomeno, perché parlavamo dell'esempio di prima di Psychonauts, che immagino fosse stato anche quello un day one, o quasi. O... Sì. E... Un week one, diciamo. Cioè, uno a un certo punto si ferma anche e si chiede, ma va bene, questi qua avranno vissuto dei videogiochi, non metto di certo in dubbio la loro passione, però magari anche per un, come dire, come si dice, diciamo, per un, come dire, difetto di professione, no? Che hanno talmente, adesso stanno talmente giocando talmente tanto che un po' forse hanno perso anche a volte, dico, il divertimento è diventato un po' più un lavoro, per fare un esempio generale. Lo so, però ho detto, sono partito forte. Quindi mi chiedevo, secondo voi, quant'è la percentuale, la cosa che, di cui... non so neanche dire anch'io che cosa sta diventando questa domanda, però... 3. Perfetto, buono sapersi. 42. Perché alla fine è una domanda ben più complessa di quanto non pensassi. No, è complessa, ma ne abbiamo parlato, mi ricordo. Sì, ne parlammo già durante quel rant, diciamo. Cioè, diciamo, a livello di percentuale, diciamo che dare dei numeri oggi è veramente difficile, perché... Un po' come le linee di codice della volta scorsa. Esatto, un po' come le linee di codice della volta scorsa. Sì, no, mi sto accorgendo adesso che a ripensarci una domanda un po' cappata per aria. No, però cioè, il core della domanda è, ci sono persone che, cioè, o almeno secondo me, poi magari mi correggete voi, cioè, quello che abbiamo detto l'altra volta era che ci sono persone che non fanno streaming o comunque contenuto, chiamiamolo contenuto in generale, così ci mettiamo in mezzo le recensioni, che non lo fanno perché vogliono giocare quel gioco, ma lo fanno perché loro sono un variety certo. streamer, un variety content creator, per cui la varietà è il loro contenuto, il portare giochi sempre nuovi, i giochi del momento, o magari prendere sponsorizzazioni per portare New World piuttosto che Apex. Quindi, cioè, non sempre portano un gioco che vogliono portare veramente, lo portano per sponsor o, diciamo, attenzione di viewership. E non è una cosa sbagliata di per sé, nel senso, se tu lo sai, se tu sai chi è, cioè, diciamo un'altra volta, se tu sai quella persona chi è e se tu sai che è intrattenimento, ci può anche stare. Nel senso, faccio un esempio. Io una volta, tanto tanto tempo fa, quando non era, diciamo, ancora risaputo che fosse davvero abbastanza un coglione, opinabile questa cosa, non voglio fare drama, seguivo un certo streamer che ha sempre un personaggio. Cioè, lui, lo streamer, non è, cioè, la persona che vedi non è lui davvero, in teoria. È un personaggio. Una maschera per Twitch. No, non indossa la maschera. Cioè, sì, in realtà sì, più o meno. Una maschera teatrale, inteso. Esatto, una maschera teatrale, esatto. È un personaggio. È un po' un VTuber senza la parte virtuale, insomma. Bella, bella metafora. Similitudini così. E quindi, cioè, sapendo che era un personaggio, tu potevi filtrare quello che diceva attraverso il personaggio. Mm-hmm. Poi questa cosa si è scoperta non essere troppo vera e quindi ho smesso di seguirlo. Però, cioè, ci sono streamer, ci sono cioè persone che fanno contenuti che iniettano un bel po' di, come posso dire, di ironia, di satira, di sarcasmo. Cioè, quindi ci sta che facciano, capito, quello che dici tu, un contenuto contestuale al momento, alla moda. Mm-hmm. Non so, se è questo che intendevi, cioè... Per fare un po' la guarda, a questo punto non so nemmeno io cosa intendevo, forse quello che mi chiedevo lo so, cominciamo bene, carichi, ma pur sempre CDC. Ma secondo me comunque, se posso permettermi, cioè questo modo di dire, insomma, mi è venuto un po' in mente prima, proprio mentre facevi la domanda, ma cioè, secondo me, per quanto ovviamente tutti quanti i boy content creator, comunque recensori, eccetera, debbano dare una opinione, perché è quello che in fin dei conti stanno facendo, anche se stanno cercando più o meno, diciamo, di renderla oggettiva secondo determinati criteri, eccetera. Secondo me, chi può, diciamo, chi può farlo, dovrebbe anche fornire all'utente medio dei criteri di valutazione. Cioè degli strumenti con cui puoi andare a valutare il gioco, più che la valutazione in sé per sé. o meglio, ti deve insegnare in qualche modo non a recensire, perché altrimenti, cioè, che fai, gli rubi il lavoro, però, diciamo, una sorta di giudizio critico per poi andare a, non lo so, ad interpretare un gioco, ad interpretare un anche pensieri di altri recensori, insomma. Perché forse ci siamo dati anche un po' una zappa sui piedi, nel senso che non volendo fare nomi, non volendo fare critiche specifiche, esempi concreti, stiamo parlando molto in astratto, generalizzando forse anche un po'. No, io posso fare nomi specifici, volevo fare nomi di streamer per Edoardo. Sì, no? nel senso cercando di evitare di mettersi nei guai in qualsiasi modo, e soprattutto per Edo, diciamo, visto che è il suo canale. Secondo me, nei limiti dell'educazione, nel senso, si può dire assolutamente, cose, ma quindi. Di certo non gli vado di certo a insultare la mamma perché fa cose del genere. No, esatto, però dire solo, questo mi fa cagare, non mi piace, cioè mi sembra, cioè, esatto, è un giudizio, nel senso, si può fare, voglio dire. È un giudizio o devi dare criteri? No, quello che dicevi tu è giusto, cioè almeno devi dare, come posso dire, devi dare un po' l'idea che stai esprimendo un giudizio soggettivo, nel senso che ci sono, come dire, alcuni criteri di giudizio che sono oggettivi, nel senso che sono basati su convenzioni di linguaggio, di cose stabilite, no? Cioè, nel senso, il problema dei videogiochi è che questa categoria è molto piccola, nel senso, per il cinema, per l'arte, per la fotografia, ci sono tantissime, c'è tantissima letteratura, c'è tantissima roba di analisi, di linguaggio, e mentre, diciamo, per la parte personale è infinito, nel senso, anche lì, per mancanza di lessico, magari se noi spesso, io e Marco, prendiamo per il culo delle recensioni che dicono tipo ti senti come Spider-Man, ti senti come Batman. Quindi sono diventati i meme, non dico sì, del canale, ma del mondo dei videogiochi. Cioè, è un meme enorme, ma perché non c'è veramente poco lessico per descrivere le sensazioni, per descrivere i linguaggi usati da designer, level designer, anche, cioè, programmazione, UX, UI, cioè ci sono pochi termini che sono riconosciuti, riconoscibili. Cioè, per esempio, no, il concetto del gunplay, cioè del feeling che ti dà il gunplay, che abbiamo detto prima, di Halo Infinite, avere un aggettivo che lo descrive è difficile da trovare, cioè dire cosa, cioè responsivo, in inglese vuol anche dire, puoi dire tight, cioè abbiamo poche parole per descriverlo, abbiamo poco linguaggio, diciamo, di giudizio. E quindi secondo me è un po' comprensibile questa mancanza, cioè è un po', anzi, secondo me, per me personalmente rende migliori, cioè mi fa risaltare più all'occhio quelle recensioni che riescono bene invece a darmi l'idea, cazzo, cioè che sento quasi di averlo sentito anch'io, quello che ha sentito il recensore. Ci sta. Tipo, io ultimamente mi ha colpito una recensione che di un gioco che neanche mi ricordo il nome adesso, sinceramente, se volete lo ricaccio, però è un gioco che ha preso un 7 su 10 su un canale di recensori di youtuber che seguo, che non è Toem, non è quello con la macchina fotografica, ma si chiama porca troia, non mi ricordo. Vabbè, semmai ve lo ricaccio se non ricordo. E praticamente questo gioco ha preso un voto tipo 7 su 10, così, e tu dici, vabbè, perché ti è rimasto impresso però? Mi è rimasto impresso perché il tizio che l'ha recensito mi ha fatto perfettamente capire qual era il problema. Cioè, nel senso, quali erano i problemi di quel gioco, qual era il sentimento che lo ha portato a mettergli quel 7 su 10. Che è una cosa difficile da comunicare, cioè io ho pensato, cazzo, io faccio fatica anche ora a spiegare ad una persona cosa provo per Wolfenstein 2. Mi pare che si chiami Chris Tales questo gioco, non sono sicuro però. Perché in Wolfenstein 2 praticamente a me non è piaciuto tantissimo il secondo, il primo l'ho amato la follia, ma non riuscirei a capirti, come posso dire, a farti capire bene perché. Quindi c'è. Volevo solamente dire, è difficile. Il tema dell'altra volta, no? È difficile. Comunque è interessante anche il punto della chat, ovvero di Salla. E poi, ora la leggo. E voi dove vi mettete in questo giudizio? Nel senso che voi ora state giudicando, tra virgolette, i recensori. E fino adesso avete fatto queste stesse recensioni. Con il podcast, ad esempio. Quindi sì, intendi... No. Cioè, santi questo anno. È un... esatto, un meta giudizio. No, beh, recensiamo le nostre recensiamo i recensori. No, nel senso in effetti penso questa che domanda noi ci stiamo mettendo un po' in mezzo, nel senso non siamo recensori, sì. Noi stiamo semplicemente dicendo facendo i cazzoni fondamentalmente. Noi diciamo cazzoni anche quello, però non possiamo dire non siamo recensori, perché a questo punto con tutti gli episodi del podcast che abbiamo fatto è anche un po' fuori dalla nostra giurisdizione, dal nostro controllo potersi definire. Noi abbiamo provato a dare recensioni, noi abbiamo cercato di essere, tra virgolette, professionali in quanto noi, ma senza nemmeno sforzarci troppo, almeno io l'ho sentita così, non so. Per te, Jacopo, io ti posso dire quello che ho sentito io ho cercato di essere, tra virgolette, onesto, tra virgolette, obiettivo, ma a volte anche ricercando un po' di scherno e allegria, diciamo. Per puro intrattenimento, quello sì, ma perché ancora io, come dicevo, non mi prendevo troppo esattamente chi guarda gli Watch, who watches the Watchmen. Come dicevo, non mi sentivo ancora nemmeno così a questo livello, era una cosa che facevamo più per noi che per un vero e proprio pubblico, e non è che ancora adesso abbiamo un seguito di chissà quanto, quindi la prendevo anche molto sullo scherzare. E credo che forse anche uno dei discorsi da cui era iniziata questa conversazione era appunto che magari ci lamentavamo un po' di quegli streamer che, come dicevo prima, magari senza accorgersene, non si rendevano conto magari di quanto influenza, no? Di quanto erano diventati quasi più che recensioni, recensori influencer, mamma mia, non so già più parlare. È brutta parola. Lo so, è una parola orribile, giuro su Dio, mi scende il brivido lungo la schiena ogni volta che penso solo di pronunciarla. Ah sì, cioè è questo, cioè tu la scelta che fai di quello che porti è una scelta che influenza. Cosa ne dici, come ti comporti, è qualcosa che influenza. Cioè noi dicevamo l'altra volta con Edo, i contenuti che porta Edo, indirettamente già nella scelta di quello che porta, influenzano quante persone lo guardano, cosa dicono, cioè quello che lui dice mentre fa uno stream, cioè anche fossero tre persone, comunque, cioè, no, se non riflette quello che pensa veramente, perché magari è disonesto, Edoardo, non lo so. Almeno influenzano il modo in cui porta contenuti, se ha senso. Non so se ha senso questa cosa. Forse era riferito anche a noi, in realtà. Cioè. Forse quello che stiamo cercando io, che forse noi, io non lo so, essi stiamo cercando di fare in questo momento, sempre per stare sullo stile, sulla linea di fare più informazione che magari critica in questo momento, no? Cercare di portare di dare una visione da chi vive questo mondo dall'interno al pubblico e far capire com'è la situazione. Così come la volta scorsa abbiamo cercato di far capire a chi non è del settore quanto sia difficile creare un videogioco, programmarlo, svilupparlo, distribuirlo e trovare finanziamenti, tutto quanto, anche se in quello che ci penso la parte finanziaria non abbiamo parlato sto divagando. Tanti soldi. Forse nella puntata di oggi quello che magari di cui volevamo parlare, più che una critica al mondo della critica, che noto io stesso, come dicevo prima, l'ironia della cosa, forse era giusto per far capire, per far notare che magari la gente non ci pensa, ma far notare quanto può essere, tra virgolette, pericoloso per alcuni giochi, perché finché uno prende per il culo Assassin's Creed, può anche essere, a meno che non sia ai livelli di ninja come streamer, è improbabile che ciò vada a influenzare troppo le vendite del videogioco stesso, ma quando videogiochi di case un po' più piccole, già un po' più indie, vengono presi in giro solo per il gusto di essere presi in giro per creare un po' di content, così, e poi si vede la casa rischiare, come ha fatto quell'esempio la volta scorsa Jacopo di Prey, che aveva ricevuto proprio indie, quel... sì, però... Sì, non è proprio indie, però per dire già... Però era giusto per dire, già una casa che non è indie come quella che ha fatto Prey è già preoccupata di queste cose, soprattutto per i suoi dipendenti, no, che ci campano con quella cosa lì, magari uno si pensa due volte. E forse quello di cui io mi volevo lamentare di più questa sera, o comunque no, uno dei classici rant, è uno sfogo così al pubblico, al vento, per non so, sentirci meglio, andare a letto più sereni. Esatto. Vecchio urlo alle nuvole, cioè Marco che... Esattamente, io per questo tengo chiusa la finestra adesso, se no non la smetterei più. E appunto come magari ci dia fastidio, perché la definirei così, a me dà fastidio magari quando vedo uno streamer che è seguitissimo a livelli di nuovo sempre di ninja, ma che comunque ha un buon seguito magari italiano, internazionale, quindi ancora nel suo piccolo comunque un influencer, e non si rende conto effettivamente di quanto le sue parole pesino nella valutazione di certi videogiochi, e di come magari sarebbe, dico opportuno, ma non so, usiamola così, cos'ha questa parola, cercare di essere un po' più professionale anche sotto quel punto di vista, perché l'esempio, cioè, classico... almeno per... Vai, scusa. No, cioè, purtroppo mi viene quell'esempio lì, perché voglio dire, tra tutti quanti abbiamo proprio l'esempio lampante di questa cosa. Vedi Sabaku, non so che altro dire, però ecco, lui si rende conto di questo, tra virgolette, potere di influenza che ha. Ma è quello che stavo insultando. Hai ragione, perdona, devo essermi perso quella live, si vede. E sa dove criticare, sa dove andare, e sa essere obiettivo per certe cose, però si rende conto anche della figura un po' più d'insieme. E, come dicevo prima, non volevo fare nomi troppe stasera, né in positivo né in negativo, per mantenere la neutralità, però... Hai beccato quello che stavo per dire io, ovvero che ci sono... Cioè, il fatto, secondo me, non è solamente di rendersi conto di quanta influenza una persona ha, ma cioè per rispondere anche a Salla e chiudere un po' la risposta, noi almeno diciamo cerchiamo di dare l'impressione di fregarcene, in senso, cioè non fregarcene in senso negativo, che ci importi qualcosa del medium, no? Cioè che ci importi dei videogiochi in generale, quindi anche quando si parla di insultare un gioco, cosa che fa più Marco perché è il... Posso dire... Fa davvero? Parte... Non pensavo di essere quello cattivo del podcast. No, Marco ogni tanto ha degli insulti da regalare, così. Non è vero, anche io spesso insulto. Però anche quando insultiamo... Una cosa. Scusa, non volevo... Non so se possiamo far vedere Django in live, o non lo so. No, non tutto, volevo cercare solo un frame. Ok, no, scusa, mi era venuto un colpo per un attimo. No, volevo cercare solo un frame, ma non lo trovo. Ok. Cioè, almeno a noi importa quello che stiamo portando, ci importa, mettiamola così. Perché per me è quella la differenza fra Sabaku che critica un gioco, che lo insulta, che fa critica, che... Poi insulta è una parola pesante, però che... Infatti quello, cioè, non penso potrei mai usare la parola Sabaku insulta così. No, appunto, cioè, è perché secondo me è l'atteggiamento verso il contenuto che stai portando, cioè un atteggiamento più, non voglio dire, cioè di rispetto, di interesse, mettiamo così, perché è quello che secondo me fa la differenza, cioè è la cura delle parole scelte, è l'interesse in quello che fai, nell'atteggiamento che hai. E detto questo, però ci sta anche che tu non abbia interesse in qualcosa, per carità, se non te ne frega se non te ne frega un cazzo di Flight Simulator, non streami Flight Simulator e ciao, cioè nel senso, No, bravissimo, perché forse ci stavo arrivando anch'io, guarda, forse ancora più di dire... Io volevo sì far notare questa cosa, di come questa cosa mi desse un po' fastidio ogni tanto, come puoi immaginare, penso sia naturale, vedi qualcosa che cui sei appassionato, che ti piace, che riesci a vedere, come dicevamo la volta scorsa, al contrario di quelli meno esperti, cosa c'è dietro tutto questo gigantesca struttura, questo videogioco che vedi giocato lì, ti fa ridere così, cosa, quello che puoi immaginare soltanto i litri di sudore che ci hanno messo dietro per realizzarlo, e poi lo vedi un po' preso in giro e la cosa ti dà fastidio, e ci sta, e va bene. Ma questo è il punto, quello che giustamente è giusto chiarire, non vogliamo fare la ramanzina né la predica a nessuno, perché chi siamo? No? Gli ultimi arrivati anche noi stiamo esprimendo le nostre opinioni, ma quindi bravissimo, io non voglio fare la ramanzina a nessuno, streamate quel che volete, dite quel che volete, prendetelo pure per il culo il gioco se vi va, però quello che vorrei magari, quello che vorrei far notare però, come dire, se da una parte c'è chi non ci pensa a questa cosa, lo prende, si diverte così, almeno ci abbiamo, come dire, tra virgolette ci siamo noi che dall'altro lato dicono va bene prenderlo in giro così, però comprendi pubblico che non è una recensione professionale, che va bene, magari sì, esatto, per in quel momento lì a quello streamer sarà sembrato ci fossero troppe cinematic nel gioco, e magari può essere una questione di gusti, il fatto che ce ne sono troppo o meno, però cerca di non fermarti solo su queste battute, su queste prese per il culo innocenti uscite fuori durante una live alle 10 del mattino o alle 10 di notte, ancora peggio. Però posso dire una cosa? E non fermarti lì, forse solo questo. Prego, Edo, non voglio. Comunque, cioè, a prescindere da tutto che tu voglia fare una recensione personale, una recensione che tenta di essere oggettiva, cioè, con qualsiasi intento tu voglia fare una recensione, mi viene da dire però che il gioco lo devi giocare. Cioè, se tu non giochi, guardi, appunto in questo caso metà cinematic della prima sequenza iniziale introduttiva del gioco e dici questo gioco ha troppe cinematics, ok, magari il primo quarto d'ora ha troppe cinematics, ma se un gioco poi, non lo so, ha un gameplay di, sparo cifra a caso, 80 ore, boh, un quarto d'ora di cinematics sulle 6, 7, 8, 10 ore introduttive del gioco. No. E questo è un esempio molto, diciamo, molto... Casuale, mettiamola così. Ma il senso è che posso fare anche l'esempio di Halo, nel senso, se tu giochi alla technical preview di un gioco e dici da lì, a parte che magari giochi parte della preview, non la giochi, la guardi solo, e poi dici questo gioco fa cagare o questo gioco è bellissimo, sì, puoi dirlo, però è una preview di un gioco, sei uno stronzo, uno, due, devi pensare anche che è una preview di un gioco che uscirà fra mesi, quindi sì, tu dai un giudizio parziale su quello che è il gioco non completo. Ed è un altro esempio. Ma appunto, per giudicare qualcosa bisogna, come minimo, provarlo. Cioè, non lo so, mi sembra... Boh. Sì, questo è sembra una banalità nel mondo, diciamo, delle recensioni, ma in realtà neanche lì è una banalità. Cioè, nel senso, tu dici, ok, per... il mondo, diciamo, degli streamer e della gente che scrive su canali di streamer, così hai detto, diciamo, una base importante da ripetere ogni tanto, ogni 5-10 minuti, cioè di non parlare senza aver provato, ma per alcuni reviewer è anche vero, cioè tipo un recensore di Cuphead si è fermato al tutorial a finire il tutorial. E cioè, allora, per quanti insulti si è preso questo qui, perché poi gli ha messo un voto basso, mi pare, o comunque ha scritto un articolo che lo demoliva il gioco. Cioè, per quanti insulti si è preso questo qui che non è riuscito neanche a finire il tutorial, d'altra parte penso, questo è un gioco Cuphead, che per chi non si ricorda, vabbè, è un gioco fatto tutto quanto con grafica, animazione anni 20, molto Disney, vecchio stile, molto bello. Fatto molto scalpore proprio questa storia qualche tempo fa, quando è uscito, nel 2016, credo. Questa mentre controllo, tu continua pure. Minchia, 2016, minchia. Cristo, così tanto tempo è passato, vabbè. Mi sembra. E ha fatto molto scalpore, secondo me, perché da un lato, cioè, non mi ricordo la storia, ma è stata una cosa un po' che gli è stata 2017, quasi imposta. Scusate. È stata una recensione quasi imposta a questo tizio, non era un tizio molto, diciamo, giocatore, così, non era una rivista o un sito web specializzato dei videogiochi, mi pare, non sono sicurissimo, però la cosa che un po' mi è rimasta è che da un lato dici cazzo, ma Cuphead si sa è un gioco, cioè difficilissimo, cioè è come marketing, come diciamo tipologia di gioco, si sa che è una specie di bullet hell, ovviamente tutti quanti dicono è il Dark Souls dei side scroller del 2D, così, vabbè, sempre le stesse cose si dicono, ma dall'altro lato penso, se quella recensione si può considerare, se potessimo considerarla onesta, cioè questo qui onestamente ci si è messo d'impegno, voleva riuscirci e non ci è riuscito, è comunque valida quella recensione per qualcuno, perché comunque il gioco è un investimento in tempo e in denaro. Cioè il gioco, cioè un gioco, per chi lo recensisce è un investimento di tempo, anche uno che lo porta in streaming, tu stai bloccando delle ore del tuo lavoro per quel gioco. Per chi lo compra è un investimento anche di soldi, ma di ancora più ore, di solito, no? Rispetto magari a uno che lo porta solo due ore streaming. Quindi magari c'è qualcuno che fa cagare, nel senso che non fa cagare in senso come persona, nel senso che non sa giocare bene, non è bravo con quei giochi, che cazzo ne so, che ha tutto il diritto di non considerarlo un suo tipo di gioco. Magari legge quella recensione e ha la conferma, non è il mio tipo di gioco. Cioè, nel senso, non so se mi sto spiegando, cioè, può esserci tu dici il lato positivo di ogni voce possibile, se riesci a capire da dove viene, se riesci a capire qual è il contesto per quella recensione, per quel commento, mettiamo, no? Qual è la linea, diciamo, tra nicchia e incompetenza? Non saprei che altro termini di definirli a questo punto, perché Sì, perché hai un qualcosa che ti richiede di partecipare, che è un gioco, non puoi guardarlo e basta, proprio un film. Quindi in mezzo, per forza di cose, ci sei tu. Quindi secondo me è più importante definire chi sei quando recensisci un gioco. Cioè, perché di solito è vero che di solito chi recensisce Persona 5 è un fan di Persona, cioè della serie di Persona o degli anime o dei giochi giapponesi, o cioè di solito, non voglio fare stereotipi, però dico, è facile che se tu leggi una recensione di StarCraft 2 è fatta da un tizio che ne sa di giochi di strategia, non perché uno anche quello voto. Secondo me è un problema, nel senso che determinate recensioni, o meglio anche lì tu puoi recensire quello che vuoi, però dal momento in cui non sei in nessun modo esperto, non hai mai giocato un gioco del genere, non hai mai visto un gioco del genere, non lo conosci proprio, cioè la tua recensione quale valore assume? Assume un valore solamente e puramente soggettivo, un parere personale, cioè non è più una recensione. O meglio, tu puoi giudicare qualche aspetto tecnico perché magari hai visto n.000 giochi, ma se, come facevi tu l'esempio, se tu non hai mai giocato un gioco di strategia, ad esempio, come lo giudichi? Cioè, come fai a giudicarlo? In maniera, direi, consapevole. Cioè, Non lo so. Cioè, magari hai interesse, ripeto, magari hai rispetto, hai interesse a provarlo. Magari nessun altro in ufficio voleva recensirlo, ti è capitato e magari tu sei un professionista, ti informi, magari c'hai interesse anche rispetto. Però, giustamente, quello che scrivi deve partire da un grosso, una grossa descrizione del tuo bias, no? Perché per forza di cose non siamo tutti esperti di tutto, non siamo tutti giocatori di tutti i tipi di giochi, e quindi, cioè, per forza di cose devi un po' mettere giù il contesto, e non sempre riesci a farlo semplicemente descrivendo il gioco, secondo me. Cioè, a volte sei forzato un po' a descrivere prima la tua, se non la tua vita, la tua, come dire, storia, esperienza. Tua, sì. Forse non lo so, c'è questo che, non so, io mi sto così impiantando, ci stiamo così impiantando su il fatto degli streamer, no? Mi ha voluto parlare, ci dà fastidio lo streamer che reagito in un certo modo, ci dà fastidio il pubblico che gli andava dietro, ci dà fastidio appunto chi viene su questa piattaforma a parlare a vanvera, così, perché alla fine forse è anche quello il punto a cui siamo arrivati, nel senso che tu dicevi devi presentarti, devi dare la tua storia, hai descritto praticamente lo streamer, nel senso lo streamer si rende pubblico, si rende aperto con le sue reazioni a che genere di giochi preferisce, a che genere di giochi è più bravo, come dire, è più adepto, diciamola così. E riflettendoci, noto anch'io che finisco sempre, io generalmente finisco per seguire streamer che hanno gusti in fatto di giochi simili ai miei, e che poi noto avere così. E quindi è questo, cioè il punto è che forse ci aveva fatto, ci aveva dato quel fastidio la cosa che è fatta qui su Twitch, perché Twitch è quello che abbiamo adesso inteso come la cosa migliore che abbiamo adesso sotto questo punto di vista. Perché forse un altro argomento di cui pensavamo di parlare questa sera, vediamo come siamo messi a tempo e tutto quanto, è anche quello, nel senso, io non so voi, ma io non, ultimamente non è che utilizzi, dicevo, a parte il fatto di dover leggere piuttosto che vedere un video, anche quello che ogni tanto mi capitava di leggere come recensioni di videogiochi, non le trovavo, diciamo, così accurate o così, anche a volte professionali, cioè alcune sembravano un po' campate per aria, diciamo. Alcuni voti di certe piattaforme sembravano dati un po', essere un po' troppo generosi su certe parti, essere un ma i voti po' dati sono a caso da altre. I voti, scusate, ma sono, cioè, difficili da, cioè, come posso dire, non sai mai a cosa, dove metterti relativamente. Il voto è un sentimento, cioè il voto è, io questo gioco, per esempio, per me un 7 è un gioco che qualcuno può trovare, innamorarsi e giocare solo quello, ma per gli altri non esiste, cioè nel senso, per me il 7 ha un valore emotivo di quel tipo, l'8 ha un altro valore, il 9 ha un altro valore, il 10 è tipo un capolavoro generazionale. Cioè ogni persona associa, secondo me, un valore affettivo, un valore emotivo a un certo voto. Quindi magari, cioè magari vedi, che ne so, uno su che scrive nei commenti: hai messo solo 8,5, sei un coglione, non capisci un cazzo, perché associa una certa quantità, diciamo, di valore a 8,5 e associa una certa quantità emotiva di valore a quel gioco che è uscito, cioè ha un certo attaccamento che si aspetta che pareggi, cioè. Quindi per me non è tanto importante il voto quanto quello che si è detto e come si è detto, perché tra l'altro di solito gli streamer o i content creator su YouTube è raro che mettano voti ultimamente, lo fanno solo testate giornalistiche o simili, se non in alcuni casi rari, e così, dove uno proprio dice vabbè, se dovessi mettere un voto, ma è più, secondo me, il commento che dai e come lo porti, che ti, per esempio, io seguo da 9 anni Nerdcute su YouTube, e lui, diciamo, sapendo quali sono i suoi gusti, eccetera, non sono coincidenti con i miei, però a volte, magari, che ne so, lui consiglia un gioco e in base alla persona che è lui, so se è per me oppure no. Tipo Just Cause 4, dopo aver giocato il 3, io non l'ho comprato. Ho detto, no, ok, va bene che me lo consigli, però no, ho capito. Però anche no. Altri giochi, tipo Outer Wilds o altri, cioè nel senso, cominci un po' a capire la persona, cominci un po' con il tempo, però per me, appunto, ripeto, sempre che ci deve essere interesse e rispetto per quello che fa, però ci deve essere anche un po' questa specie di filtro, mettiamola così. Sì, quello secondo me, cioè, sono d'accordo, nel senso, ovviamente è giusto che non si abbiano, cioè è normale che non si abbiano gusti analoghi, eccetera, quanto magari, pur non avendo gusti analoghi, un recensore o comunque uno streamer, uno youtuber può piacerti a prescindere, perché magari è simpatico ugualmente, perché magari in realtà nella maggior parte dei video porta contenuti che ti interessano, ma magari non ha la stessa visione su qualcosa, cioè non lo so, possono essere n mille motivi. No, esatto. Ma, cioè, appunto per questo, no? Alla fine non tutto è commento, cioè non tutto è, quello che dicevo prima, non tutto quello che fai su Twitch è critica, è giudizio, nel senso... Può essere contenuto sponsorizzato, può essere anche semplicemente cazzeggio, come adesso, cioè. Sì, esatto. Soprattutto nel come un po' ti rapporti, come lo approcci, secondo me. Però siamo tutti d'accordo nel dire che ormai tra il vedere una live di un paio d'ore e di qualcuno che magari ti sta simpatico, appunto, che conosci, che sai avere abbastanza i tuoi gusti, e leggerti una quindicina di recensioni con pareri anche contrastanti, un po' così, cos'ha, di sicuro adesso credo che, come dire, sia molto più anche rilevante, probabilmente ottieni una informazione maggiore guardando appunto la prima, cioè la live, che la piuttosto che la seconda era... Non so, volevo chiarire in definitiva quel concetto lì, cioè far capire che di nuovo Twitch quest'anno, in questi ultimi 2 anni, si è esploso per via della pandemia e tutto quanto, e cose così, e non ci sono di sicuro solo giochi sopra. Ma è una realtà che tutte le case videoludiche se ne stanno accorgendo sempre di più, sta diventando, come dire, uno streamer che con grande seguito boccia o approva il tuo gioco, può influenzare a volte il risultato di uno speed. Sì. E quindi era questo, cioè alla fine della serata io non pretendo di certo di aver cambiato l'opinione di nessuno su che cosa sia giusto portare, non portare, criticare, non criticare, prendere per il culo, non prendere per il culo. Però, voglio dire, che ci rendiamo, rendiamoci conto che adesso Twitch non è più solo quello dove come dire, si giocava solo a LOL o a Fortnite. Sì, ma è vero, solo che tempi fa. Cioè, è anche quello, giustamente, poi essendo uno strumento comunque alla fine molto molto potente, perché ti permette di guardare letteralmente persone giocare, parlare, fare purtroppo barra per fortuna quasi qualsiasi cosa in diretta dall'altra parte del mondo, ed è giusto, sono, ci sta che venga utilizzato anche per dare pareri, opinioni, recensioni, cioè gameplay, proprio affinché il gioco venga sponsorizzato in positivo o in negativo. Secondo me il punto è che in caso di recensione bisogna farla, cioè la recensione va fatta con un minimo di onestà, va fatta giocando effettivamente il gioco. Poi il caso di Cuphead è un po' emblematico, però anche lì mi viene da dire, cioè, tu non sei riuscito a finire il tutorial, ok, però la tua recensione si deve basare anche su quello, cioè nel senso non... devi anche pensare che il problema possa non essere del gioco, insomma. No, è vero. Secondo me, perché cioè ci sono persone che hanno superato il tutorial, quindi boh, è stato proprio un esempio estremo come quello della pessima recensione per via del bug del gioco di Prey della volta scorsa. Ci sia, sì, è un esempio estremo. Esempio estremo. Sì, sì, sì, no, ma l'ho preso appunto per, cioè, perché, cioè, per dire che una recensione è comunque qualcosa di soggettivo ed è... Cioè, un disclaimer del genere secondo me andrebbe fatto, perché purtroppo non si può dare nulla per scontato, come per esempio per giudicare un gioco bisogna giocarlo. Sembra scontato, ma non lo è. Una recensione, come dicevi anche tu, Ia, è difficile farla in maniera oggettiva riguardo specialmente a un videogioco, perché un po' manca il lessico, un po' mancano proprio gli strumenti per farla. Quindi... E ci sei tu di mezzo. Esatto, e ci sei tu di mezzo, quindi di per sé è sempre un processo soggettivo, fondamentalmente. Quindi per quanto uno streamer possa essere influente, eccetera, rimane comunque un giudizio soggettivo. Sono d'accordo che è difficile magari discernere l'oggettivo dal soggettivo certe volte, specialmente se è uno streamer con, boh, 500.000 subscriber che te lo dice, quindi se te lo dice lui sarà sicuramente vero. No. Cioè, è una sua opinione. Magari, avendo giocato tantissime ore a tantissimi giochi, si presuppone che l'opinione sia un minimo, diciamo, tendente al raziocinio, ma può anche non essere così, quindi... No, certo. Non lo so, il discorso è... Cioè, è complicato, purtroppo, ripeto, Twitch è bello ma brutto, cioè, o meglio, una qualsiasi piattaforma di streaming è bella ma brutta anche per questo, perché tutti possono approcciarsi a funzioni, a cose che prima era cui prima era un po' impensabile approcciarsi, d'altra parte però servono degli strumenti di regolazione, anche per casi del genere, che purtroppo è... Cioè, sono all'ordine del giorno ormai, c'è poco da fare. Nel bene e nel male sì, è così, cioè, mi dicevi tu, è bello ma brutto, è un po'... Magari la differenza che c'è tra un power o un... non so, cioè, anche... Guarda, faccio un dispiacere a Marco, ci metto anche Ninja. Cioè, una persona... Lo seguo, Ninja. Una persona che come power, come ninja, che ha giocato i vecchi Halo e che parla di Halo Infinite, ha un peso diverso rispetto a uno che gioca solo a FIFA o a LOL. O a... Cioè, una persona che è esperta di quel campo, tra virgolette, esperta, tra virgolette, campo, ovviamente, anche se il parere lo dà con leggerezza, mettiamo, no? Senza troppo pensarci così, ha un certo peso. Ma un peso, seppur minore, quasi zero, ce l'hanno tutti, il parere di tutti. Cioè, è una cosa che diceva Staten ultimamente su Twitter, diceva mi piace molto il momento in cui il gioco, vabbè, in questo caso l'Infinite, ma penso parlasse di tutti i giochi che ha fatto, passano di proprietà dalle mani di chi l'ha fatto alle mani di chi ci gioca. Perché in un certo senso... Cioè, l'ownership, tra virgolette, se c'è una community abbastanza grande, ce l'ha la community a un certo punto, no? Cioè, un po' perché gli sviluppatori smettono di svilupparlo, se non è stato cazzo. Un po' perché il discorso, diciamo, la community intorno che ne parla, che ci gioca, che fa video di gente che fa rampino sulla bandiera o cose così, cioè, è un po' quella che fa il gioco in un certo senso anche, no? Perché non viviamo in una bolla, nel senso in cui non sappiamo nulla, cioè se tu non sapessi davvero nulla, i giochi li scopriresti solo tramite lo store di Steam, cioè o simili, no? Invece non è così. Quindi questo è un po', come posso dire, il bello e il brutto di una piattaforma come Twitch, mettiamo così, come dicevo. Sì, sono d'accordo. Ho detto tanto su Twitch, io ero curioso di sapere, effettivamente ho fatto intuire quale fosse la mia opinione, diciamo, della carta tra virgolette stampata quanto riguarda il videogioco, volevo sapere anche la vostra, perché abbiamo detto, leggo il titolo testuale della live di Edo, le recensioni nel mondo dei videogiochi, quindi uscendo anche un po' da Twitch. Avete opinioni, pareri, che sarei curioso di... Ma questo allora, sarebbe quello di Edo, io. Allora, io, diciamo, in maniera molto coerente faccio un disclaimer. Io, in genere, me ne sbatto il cazzo delle recensioni. Nel senso che... difficilmente leggo recensioni di videogiochi perché... un po' come dicevi tu forse Marco, preferisco guardarmi un po' di gameplay, guardare vedere effettivamente com'è il gioco. Spesso devo ammettere che quando guardo il gameplay lo guardo anche senza audio, per non avere rotture di scatole, perché sì, lo so, mi perdo parte dell'informazione perché non ho l'audio di gioco, non mi interessa. Però quando Per lo streamer, dici, per togliere sì, la voce. Comunque per un eventuale buon recensore, anche su YouTube, anche sulle pagine. Per esempio, mi è capitato di guardare recensioni su buonmultiplayer.it senza audio. Ma povero Pierpaolo Greco. Lo che so, fatto? Lo so. Quindi, infatti, dicendo che cade successivo. Tutto il discorso del... In realtà è una cosa che volevo dire anche prima. Diciamo, o meglio, anche spesso lei mi succede di guardare prima senza audio e in caso poi di riguardare la recensione con l'audio. Cioè, lo faccio poche volte, ammetto, non sono appunto un gran... diciamo, sono uno che un po' si butta, nel senso, il gioco lo prende, punto e basta, se gli piace lo continua a giocare, se non gli piace, amen. O lo finisco per senso di ossessività e compulsività, oppure lo lascio lì e lo riprendo magari dopo anni. Quindi, diciamo appunto, da utilizzatore medio scarso di recensioni, viene a dire che il mio processo personale è: guardo la recensione, a volte anche senza l'audio, se il gioco mi attizza davvero, vado anche a leggere qualcosa su siti, sinceramente in maniera casuale, non ho un recensore preferito, una blog, una pagina preferita di... Però un pochino comunque segui... cioè, per sapere cosa cercare, nel senso, un pochino segui dei siti, qualcosa... Sì, però per dire... ti faccio un esempio. Ho preso un po' di tempo fa il nuovo Crash Bandicoot. Ma io qualche recensione l'ho vista, qualche gameplay l'ho visto, ma io già sapevo che avrei comprato quel gioco, cioè, nel senso, la recensione... Okay. It's About Time. Io ero già convinto di prendere il gioco, diciamo, volevo solo misurare la stronzata che stavo facendo, nel senso, mi sarebbe piaciuto o meno, però avevo comunque intenzione di giocarlo. È una mentalità perversa, però no, è giusto, cioè, sto portando la mia esperienza. Più che altro è un po' hai ragione. È un esempio molto preso a campione, inteso, l'hai fatto con Crash Bandicoot perché era un gioco che vivevi dalla tua infanzia, lo conoscevi e potevi immaginare che quello nuovo fosse altro di quello che avevi già, cioè altro inteso fosse solo un'aggiunta a quello che avevi già vissuto, cioè fosse la, tra virgolette, stessa minestra, ma in senso positivo, perché, e quindi hai fatto già stessa carbonara. Stessa carbonara, chiamiamola così. Sì, questo un po' è vero. C'è qualche gioco quello, magari più nuovo, magari appunto lasciando perdere anche lì Cyberpunk, che era pure sulle scarpe, sui ferri da stiro, momenti. un po', cioè, come dire, che... uno che ha guardato l'intero universo Marvel dall'inizio alla fine, poi dice, poi decide di non andare a vedere Endgame, non credo, perché, cioè, voglio dire, hai vissuto tutta la storia. Non è proprio, non è proprio Endgame, non è proprio la stessa, no, era un parallelismo, sì, inteso, sì. Hai adorato tutto prima, vuoi non prendere l'ultimo capitolo, vedere l'ultimo, ma capitolo. Guarda, un po' mi è successo con Monster Hunter World, nel senso, in realtà non l'ho comprato perché poi me l'ha regalato Luca, però avevo comunque intenzione di comprarlo, ma non ho letto le recensioni, ho visto da Icio qualche gameplay. Salutiamo Icio. Salutiamo Icio. Un piacere, sì. Il gioco mi sembrava interessante, mi sembrava divertente, diciamo, non l'ho mai comprato perché ero sicuro che non avrei avuto abbastanza tempo da dedicare a un gioco che ne richiede tanto come Monster Hunter World, e quindi ho detto, vabbè, ho temporeggiato, ma comunque è un gioco che avrei voluto provare, pur non essendo, non avendo mai giocato un altro Monster Hunter, e avendo visto relativamente poco gameplay, non avendo visto sostanzialmente recensioni, però era un gioco che avrei voluto comunque provare. Solamente per sentito, cioè non per sentito dire, pare brutto, però per word of mouth, cioè per qualcuno, un tuo amico, sì, che ti ha raccontato di questo, sì, gioco che, esatto, ti ha, esatto, presentato. Esatto, esattamente. Più o meno il senso è questo, sì. Comunque vale. Io, boh, cioè, io spesso sono quello che dice a Edoardo questo gioco è figo. Cioè, nel senso, io magari seguo di più dei siti tipo... Oddio, vabbè, in realtà multiplayer.it ultimamente voglio un po' lasciarlo perdere anch'io perché mi sta facendo un po' venire il cancro. Intanto, però, più che altro, diciamo, seguo gente appassionata che fa contenuto sia tipo streaming, comunque intrattenimento, cose così, sia roba di novità, news, podcast, recensioni serie. Quindi, diciamo, io come posso dire, mi tengo un po' più aggiornato da quello che una volta era la carta, nel senso che ora non esiste più, però nel senso intendo una cosa più che simile alla stampa classica, no? Come dicevi tu prima, Marco. Quindi, di solito io quando, cioè, sento parlare di un gioco, ne sento parlare prima che è uscito, ne sento parlare anche anni prima, tramite conferenze o questi qui che ne parlano come un nuovo annuncio, una nuova cosa, e poi ne seguo un po' lo sviluppo, se un pochino mi interessa, se conosco il team che c'è dietro, o magari conosco un pochino il titolo, così, continuo a seguirlo, e quando esce la recensione me la guardo, e magari se qualcosa non mi convince, ok, mi guardo qualche gameplay, mi guardo qualche altra recensione, così. Tipo, per esempio, Deathloop, ho visto, vabbè, troppi trailer, perché ne hanno fatti 400.000, ormai rompeva i coglioni ogni conferenza Sony, però ho visto comunque recensioni, provati, cose così, perché è un gioco che, cioè, nonostante 5.000 trailer, non si capiva che cosa cazzo fosse finché non è uscito, e ora che lo so, diciamo, sono un po' più tranquillo e sono un po' più intenzionato a comprarlo. Comunque non è sto capolavoro infinito che tutti quanti sembravano dire all'inizio, però conoscendo i tizi, che tra l'altro sono quelli, sempre quelli prei di Sonored, sono sempre gli Arcane. Vabbè, cioè, questo era un esempio, no? Nel senso, io comunque ancora un po' mi rifaccio più a il ciclo normale, tra virgolette, di conferenza, annuncio, trailer, novità di suo sviluppo e diciamo la stampa intorno all'uscita, mettiamo così. Ci sta, perché questo è un discorso interessante. Infatti io aggiungo che in realtà io molto molto molto raramente prendo giochi al day one o appena usciti, e anzi io preferisco, tra virgolette, vedere un po' prima, anche per bene, anche un po', dico spoilerandomelo completamente, ma qualche spoiler non mi dà nemmeno troppo fastidio, perché so già che i giochi che piacciono a me sono quelli che in generale non si basano, come dire, non sono in un gioco particolarmente per la storia, ma più per il gameplay, come penso di aver dimostrato più volte in questi episodi del podcast. Quindi anche se ti spoileri un po' di storia, il gameplay non è che cambia. No, anzi, io preferisco vedere per bene se un gioco vale la pena, perché so che posso ficcarmici dentro tutto quanto per chissà quante ore prima di decidere di spenderci soldi sopra, anche solo per una questione a volte di... Cioè, non so, proprio a me dà un po' fastidio prendere un gioco e poi vedo che faccio già fatica a finire o cose del genere. No, no, ci sta. Io sono abbastanza abituato ormai a dover lasciar perdere dei giochi, a non poterli finire. Però in realtà anch'io ultimamente sto prendendo raramente, a meno che non so già più o meno cosa aspettarmi. Non so già che è una cosa che ci tengo particolarmente. Cioè, tipo, appunto, anche se un gioco alla fine non ci gioco oppure mi fa schifo, tipo il remake di Tredicesimo o Cyberpunk, che ancora non ho giocato, li ho prenotati. Alan Wake, il remake, non so come l'hanno fatto, il remaster, ma è un gioco che volevo rigiocare da un sacco di tempo e ora ho il pretesto. Quindi, insomma, prima lo facevo di più. Adesso, dopo gli svarioni, dopo le botte che ho preso sugli istinti, ci ripenso un attimo, aspetto, anche perché il backlog è infinito. Perché io in realtà volevo aggiungere a questo una cosa, cioè che mi ha colpito tantissimo quello che ha detto Edo poco fa, cioè che lui ogni tanto guarda i gameplay e toglie anche l'audio. Non so perché, mi ha colpito perché ci ho scherzato sopra, però sì, in effetti va un po' contro quello che abbiamo detto finora, ma allo stesso tempo anche no, inteso che a me è sempre da fare il parallelismo tra il mondo dei videogiochi e il mondo, diciamo, di tutti gli altri media, no? Film, fumetti, serie TV, eccetera. E mi ha fatto notare una cosa, in effetti, nel senso che se un gioco è buono, no? Inteso buono come lo intendo io, cioè come ho appena detto, quelli che tendo a definire preferire i giochi che si basano più sul gameplay che una semplice storia fatta dentro un videogioco, per quanto interattivo può essere, non sono quelli fatti per me. E infatti mi ha fatto notare una cosa, cioè che i videogiochi sono l'unico media che uno può, se sono fatti bene, uno può vivere anche un po', nel senso può vedere anche uno giocare una buona parte del gioco, ma allo stesso tempo sapere che quando magari ha visto quello che voleva vedere e si trova interessato e vuole approcciarcisi, può anche sapere che la sua esperienza non è quella che ha vissuto quell'altra persona, che ha visto vivere da quell'altra persona, no? Perché prova, è un po' come dire, c'è una differenza del vedere le prime ore di gameplay di qualcosa da uno streamer, piuttosto che farti raccontare per filo e per segno i primi 30 minuti di un film che un tuo amico è andato a vedere. Sì, assolutamente. Che puoi viverlo attraverso quest'altra persona per un po', vedere quello che, come lui reagisce, se lo conosci, tra virgolette, sempre qua, se conosci il suo stile, i suoi gusti, per il fatto che lo segui già da un po' e eccetera, riesce a intuire anche come tu potresti reagire adesso e riesce a fare soprattutto tutto questo senza perdere nulla, perché non, come dicevo prima, potrei spoilerarti un po' di storia, ma l'esperienza in sé non cambia dal farla te al vedere. Poi spesso sono giochi più lunghi quelli che dici tu. Farla che al farlo tu stessa. Quindi anche quello è un aspetto interessante, nel senso, secondo me, parlavamo tanto di Twitch così, anche qui le recensioni del mondo dei videogiochi servono fino a un certo punto, perché uno, se ha la possibilità, ci può stare che lo guardi, lo veda e dica, ah, potrebbe interessarmi, assolutamente, senza aver bisogno di questo tramite della recensione, perché, come diceva Edo, guardarsi un gameplay così, anche 20 minuti proprio di puro proprio recording del videogioco, non ti toglie quasi nulla, molto spesso. Stavo vedendo da un'ora, praticamente. Esatto. Vabbè, no. In quel caso è un po'... cioè, se non si tratta di un gioco... Ben più che navigato, quindi solcato. No, quello che dici tu, Marco, ha senso secondo me per appunto giochi abbastanza lunghi con un'enfasi sul gameplay, ovvio, e per persone come te che magari riescono a percepire qual è il gameplay guardando un video, perché ovvio. In realtà per me, cioè, il motivo per cui mi piacciono tanto ancora le recensioni, specialmente di gente che le scrive bene e che sa descrivere bene i propri sentimenti, è che non sapere come è fatto un gioco guardando il gameplay non è sempre facile, non puoi neanche aiutarti guardando i pulsanti che preme sul pad, no? Perché a volte c'è anche quello su sì, come sì, live, sì. No? Magari se tu conosci bene Dark Souls, ok, puoi capire un po' cosa sta facendo, puoi capire un po' perché sta facendo delle cose, premendo dei pulsanti, eccetera, ma il feeling che ti dà un gioco come The Last of Us parte 2, che comunque appunto io sono più appassionato di te di giochi dove la storia invece è preponderante, non ce la fai a descriverlo con il gameplay. Cioè è sempre buono avere il gameplay, per carità, cioè è sempre buono avere il riferimento per capire di cosa stiamo parlando e per capire tante cose di un gioco, per carità, ma The Last of Us parte 2, finché non sono uscite le recensioni, non avevo davvero idea di dove andasse a parare, perché cioè, anche prima di giocarlo, nel senso, la storia e le cose che sono state fatte in quel gioco vanno oltre il gameplay, per quanto siano in realtà più integrate di quanto si pensi nel gameplay. E questo è solo un esempio per dire, qualunque Walking Simulator, qualunque gioco narrativo principalmente, così, per me è più importante sapere, cioè riuscire a capire che cosa hanno provato le persone che ci hanno giocato, piuttosto che vedere il gameplay, se la cosa ha senso. No, certamente, assolutamente, sì. D'altronde, ripeto ancora una volta, alla fine i miei giochi preferiti continuano a essere quelli strategici, che sono quelli che si addicono perfettamente alla categoria di giochi che ho descritto, come dire, quelli che non perdono anche dal vedere. Quindi è ovvio, quello è più un caso mio, però c'è anche questo caso e c'è anche il tuo caso, assolutamente. Quindi, come dire, serve tutto? Serve niente? Cioè, non è un caso che siano rimaste comunque le recensioni, perché per certi giochi... Sì, sì, sì. No, sono comunque meno importanti, per carità, cioè, vedo che comunque le uniche, diciamo, recensioni importanti sono quelle dei giochi più grossi. Ormai la recensione... Vai. No, scusa, dicevo che secondo me è anche dipendente molto dal modo con cui la persona si approccia al mondo dei videogiochi, nel senso, se penso magari specialmente te, Ian, tu provi veramente una quantità incredibile di giochi. Ora magari dicevi ora un po' meno, però, cioè, nel senso, ricordo la tua libreria di Steam è infinita sostanzialmente. Non è diminuita. Esatto. Vediamo chi ce l'ha più lungo, la libreria di Vogliamo Steam. Vogliamo fare a gara, guarda che io ho 537 giochi su Steam. Tu hai anche le mani grandi, no? Per scorrere meglio la libreria, quindi esatto. È ovvio. Bundle, ti ringrazio. Esatto. Scusate, non volevo, mi sono dimenticato che siamo in diretta, e ti chiedo scusa. Okay, ecco, Lugotis quando si parla Lugotis ha messo in pausa Outer Wilds per scrivere. Esatto. ti ho visto, Luca, mi appassa la notifica che stai giocando ad Outer Wilds. Ah, veramente? A posto. Sì. Ovvio. No, dicevo, cambia anche cioè, secondo me è soggettivo anche al modo con cui si approccia ai videogiochi, perché magari appunto uno come voi, che è molto appassionato, si interessa molto in generale alle nuove uscite, prova tanti giochi, ne gioca altrettanti, cioè per voi magari ha davvero un significato, cioè non un significato, ha una certa importanza una recensione di un videogioco, perché siete anche un po' dentro il mondo del videogioco, eccetera. Se io penso al mio caso, e mi ricollego anche a quello che ho detto prima, ovvero che certe volte guardo gameplay anche senza audio, perché io in genere magari sono più interessato a giochi che siano un minimo competitivi, come può essere Halo, come può essere Valorant, per dirlo, esatto. Come possono essere giochi, poi sì, ok, ho fatto il caso prima di Crash Bandicoot prima, ma come diceva anche Marco, un qualcosa legato al... Ok, ho giocato tutti i precedenti, la saga mi è sempre piaciuta, il gioco mi è sempre piaciuto, lo gioco a prescindere. Però diciamo che se vuoi imparare qualcosa, barra capire come funziona una parte di gameplay di un gioco competitivo, togliere l'audio, cioè sì, ti toglie quel qualcosa in più, ma in generale, diciamo, vedere ha molto più impatto di solito. Questo è interessante, cioè è vero che, come dici tu, togliere l'audio magari ti toglie il sound design. Che fra parentesi per Halo Infinite è devastante, cioè nel senso, ragazzi, giocate ad Halo Infinite solo per il reparto sound, esatto. Perché è incredibile. C'è già l'eccezione a questa cosa che hai detto. Scusate. Sofì, vado a disclaimer, questo gioco potrebbe avere un impatto emotivo intenso, spunta per disattivarlo. In che senso? Comunque, cioè, questa cosa, bravo, stavo per dirla pure io, che ormai le recensioni sono un po' superate, non solo per quello che dicevate voi del avere magari più interesse a giochi che hanno più, concentrazione sul gameplay, perché comunque, appunto, ci sono giochi narrativi ancora abbastanza che vendono tanto. Più che altro perché quelli più guardati, quelli più streamati, quelli più giocati anche, ormai sono quasi tutti multiplayer, molto più che prima. Quindi ha molto più impatto un tizio che gioca ad Apex e che lo commenta rispetto che una recensione, perché Apex o Fortnite, quello che volete, è un gioco di evoluzione, è un live service, no? Quindi non ha molto senso fare una recensione dove tu ne parli, dici questo è il gioco, perché il gioco cambia. Cioè dovresti fare una recensione ogni stagione, ogni patch, ogni campione che esce, esatto. Cioè, quindi è secondo me è un po', come posso dire, considerato un relitto in antichità, cioè una recensione, per questo motivo, cioè perché i giochi più tra virgolette influenti della nostra generazione ormai sono multiplayer, cioè sono cooperativi, competitivi, in evoluzione costante. O comunque secondo me anche il fatto delle patch, dei continui aggiornamenti un po' ammazza le recensioni, nel senso che effettivamente se un gioco ha determinate problematiche, prima le aveva, cioè nel senso erano quelle. Ora, patch di ottobre risolve i problemi tal detali, ok, sì, gioco da un 7,5 passa a un 10 perché ha risolto tutti i problemi. Non esempio è così. Esempio Sea of Thieves, no, è così. Benissimo. È vero, non ci sono più i box, i giochi escono negli scatoloni, quelli grossi così, alla... Esatto. Una volta non vengono, e poi basta, e quello è prodotto finito, mai più aggiornato. Esatto. Adesso è cambiata anche quella struttura lì, sicuramente. No, box, cioè, Sea of Thieves... fare il parallelo, il film una volta uscito è quello, il gioco molto spesso. Halo e Sandra Amoroso. Cambiare anche... a lungo durante il suo sviluppo, durante la sua vita, ecco. Adesso mi ha fatto ricordare questo, Marco, cioè Sea of Thieves non solo è migliorato tantissimo, cioè negli anni ha aggiunto contenuti, quality of life, eccetera, ma rispetto a quando la gente lo ha recensito, cioè ci gioca anche un sacco di gente in più, proprio rispetto al picco iniziale, no? Rispetto all'uscita. Secondo me grazie a Twitch, cioè assolutamente. Non sempre fare un gioco come Sea of Thieves che è fatto apposta per essere streamato, non sempre è una buona scelta, cioè a volte ti condanna, cioè perché sembra quasi una forzatura, sembra quasi, come posso dire, cioè che tu ci stia provando un po' troppo a renderlo famoso, no? A renderlo autosufficiente. Sì. Invece c'è, cioè, Sea of Thieves, appunto, è un gioco diverso rispetto a quando è stato recensito, in un certo senso. Quindi per parlare dei giochi, giusto per fare, l'abbiamo citato anche la volta scorsa, la storia di No Man's Sky, che ha cambiato le sue recensioni giusto di recente. Dire è quanto... passato dal gioco peggiore al Game of the Year l'altra volta, no? Quando l'hanno premiato, quest'anno, l'anno scorso. Forse due. Cioè... vorrei dire una capolata, no, l'anno scorso. Però hanno creato una categoria apposta per No Man's Sky, Most Improved, tipo una cosa del genere. Sì, e se lo meritava tutto, assolutamente. O Best Ongoing Game, una cosa del genere. Ecco, magari... poi sicuramente sono dei giochi che sono più facili, diciamo, da patchare, che hanno più bisogno di patch, come appunto molto spesso quelli multiplayer, per bilanciamenti, perché escono personaggi, armi nuove, cose del genere, e devono essere bilanciati un po' per forza di cose. Ha giochi magari meno atti a ricevere patch, quindi secondo me un po' più consoni, diciamo, a ricevere recensioni, come per esempio può essere un The Witcher. Il gioco è quello, e quando uscì, cioè, ok, ci sono stati DLC eccetera, ma fondamentalmente il gioco è rimasto quello. In realtà hanno fatto anche belle modifiche all'interfaccia che molti recensori avrebbero apprezzato, però anche lì è una cosa forse secondaria. Quindi tu dici, l'esperienza di The Witcher 3 ora è fondamentalmente la stessa. Cioè, le recensioni, appunto, togliendo questo elemento, il resto rimane valido. Invece per i giochi come magari Halo Infinite in multiplayer, l'insieme è più della somma delle sue parti. Non so se ha senso, cioè, la sensazione che hai in quel momento quando ci giochi non è solamente questo e quest'altro, ma è tutto l'insieme, no? Cioè non è, Non so se mi sto spiegando bene, cioè un gioco multiplayer ha tante complessità in più di solito, ha tanti sistemi in più che insieme ti danno l'impressione del gioco multiplayer. Sì. Un gioco come un gioco single player, che non è fatto, come dici tu, per essere patchato spesso, di solito, anche se risolvi qualche problema, l'esperienza nel totale. Sì, esatto. Sì. Sono abbastanza d'accordo, sì. A meno di stravolgimenti giganti, però vabbè, si tratta di davvero l'eccezione che conferma la regola, alias Cyberpunk, appunto, si potrebbe dire. Però vabbè, sono casi davvero molto, molto estremi, e spero che non ce ne siano troppi altri, detto proprio sinceramente. Io avevo giusto un'ultima cosa da aggiungere, poi penso di aver praticamente detto tutto quello che mi è venuto in testa, così. Ci avevo un po' scherzato sopra prima, perché effettivamente, io lo ammetto, io sono un po' un braccino corto. Tuttavia, no, effettivamente però mi è venuto anche da pensare che... ehi! Come dire, ci siamo rimasti tanto sopra in questa serata, però non è un caso se le recensioni sono veramente molto importanti nel mondo dei videogiochi, perché comunque... è un certo anche investimento avere una certa passione di videogioco, perché ricordiamo di nuovo al cinema, vabbè che adesso i biglietti non è che quanto costi più un biglietto del cinema ormai, però di sicuro penso meno dei 70 euro a cui normalmente adesso escono molti dei titoli AAA, e sì, molti dei titoli AAA, l'avevo detto prima, cioè un investimento in tempo ma anche in denaro, sicuramente. Infatti, sì, non so, l'ho voluto ribadire così, perché sarà che mi sto addormentando anche un po', perché l'ora è tarda. Però sì, come Jacopo aveva detto, era giusto per dare una cifra in più. E, come dire, far considerare che anche quello è un altro fattore da aggiungere alla lista. E non so, e volevo dirlo, volevo sentirlo dire dalla mia voce, perché... no, ci sta. Tutto sì, lì, no? Non... secondo me, no, ma tu dici perché c'è il bacino corto, secondo me no, cioè nel senso chiunque... cioè, chi no, può spendere dei soldi? Senzato, più che altro, anche lì, è brutto scoprire che magari spendi 70 euro per scoprire che magari il feeling del gioco che ti aspettavi, quello che speravi che il gioco fosse, poi si rivela essere tutt'altro. E che magari, chi lo sa, non sto facendo esempi specifici a quest'ora della notte, però quando magari ti presentano il gioco in un certo modo con trailer creati a puntino e cinematic fatte giuste giuste e poi scopri che l'esperienza è diversa da quella che ti promettevano, questo un po' si può definire false advertising se effettivamente le cose che vedi ci sono nel videogioco, non lo so, non voglio entrare in altri campi in questo momento, però ci rimani un po' male, giusto per dire, no? Se spendi 70 cucuzze e poi arrivi a questo punto qua. E tu dici sarebbe bello avere recensioni fatte in un certo modo per risparmiarti quei 70 euro. Sì, no, più che altro non mi sorprende assolutamente l'importanza, tra virgolette, che hanno gli streamer adesso nel mostrare con mano un prodotto, no? Lì non è solo il recensore che ci gioca 15 minuti alla presentazione della fiera, poi ti scrive l'articolo di 2000 parole, 2000 caratteri, e poi no, probabilmente la parola è la cosa giusta. Beh, non lo so. Comunque sì, cioè, è più tangibile quello che porti su Twitch. Sì. Io penso di aver detto tutto, perché come state notando forse mi sto anche un po' addormentando in questo momento. Sì, sì, sì, sì, ma direi che ci appropinquiamo verso la fine dell'episodio. E con il nostro momento preferito, Jacopo? O... Non lo so, perché io non ho molto da dire al riguardo, nel senso che, cioè, oddio, forse qualcosina lo avrei. Metti la sigla per sicurezza, poi vediamo se riusciamo a incastrarci qualcosa, altrimenti dici, diciamo... metto la sigla, aspetta. Dovete presentare un attimo che... Ok. Get you waiting, huh? Avete sentita? Eccola, sì. Sì, forte e chiara. Non è salvata nei numeri preferiti. È salvata, ma ogni volta devo trovare... Rapida 1. Esatto. Allora, qualcosina c'è da dire su momento Kojima. Ovvero che c'è un po', diciamo, questa specie di spaccatura, secondo me, fra il mondo della critica e il mondo degli utenti. Mm. E questa spaccatura, vabbè, è in ogni cosa, nel senso è nel cinema, come nei fumetti, nei libri, nell'arte, eccetera. È un po' derivata da tanti fattori, nel senso un po' c'è quello che dice tutti quanti i giornalisti, le critiche sono corrotte, perché Emily in Paris li hanno pagati per fargli dare... infatti è vero. C'è il complotto. Scusa, ma mi è tornato il flash di Emily in Paris, vabbè. Li hanno pagati, li hanno diciamo letteralmente corrotti per avere la nomination e la vittoria probabilmente, diciamo, mettiamo così, a grandi linee il discorso della corruzione, tra virgolette, dell'etica nel giornalismo videoludico di solito non ha tanto posto, cioè, ci sono alcuni casi documentati, ma diciamo fai meglio a toglierla come possibilità. L'altro fattore che secondo me è più reale è il discorso della quello che diceva prima Edo, cioè se tu hai giocato 1000 giochi, nel senso hai lo fai di mestiere, nel senso hai un tipo di preparazione diversa, un tipo di approccio diverso rispetto a uno che compra un gioco ogni 5 anni. Perché se tu sei cresciuto che a casa giocavi solo a StarCraft o solo ad Halo 2, avevi solo quello, avevi solo la tua copia, una copia sola di Zelda e giocavi tutto il giorno a quello più volte, cioè hai un tipo di... di prospettiva, di opinione diversa di uno che gioca 5000 giochi all'anno e scrive recensioni di mestiere. Quindi questo vale per i giornalisti videoludici come vale per i critici d'arte, i critici del cinema, eccetera, no? Sì, quindi per forza di cose c'è una differenza di opinioni su Kojima, perché nel senso una figura che già è divisiva, secondo me, dentro casa sua, cioè nel senso che già lui si alza la mattina e crea polemiche dentro casa sua. C'è la moglie che dice no, non questo. Cioè, uno che scrive che Death Stranding è un gioco mio, l'ho fatto solo io, uno non sta bene, nel senso, io non vorrei lavorarci sotto. Però due, traspare, secondo me, un tipo di atteggiamento che dice ok, è dannoso perché non dice che c'è un team dietro, non ringrazia il team, eccetera, però... è un tipo di atteggiamento che è un po', come posso dire, ti giustifica, come si dice in italiano, ti indulge, ti porta a fare quel tipo di ragionamento che fai sempre in questi casi, ovvero dici, ah, quello è un eroe, quello è quella persona importante, quella persona singola porta il gioco sulle spalle, no? C'è una visione unica. E questo mito, che c'è ovunque, nel senso il mito del tizio, ah, quello lì, Kevin Feige, come può essere Quentin Tarantino, cioè qualunque persona che dice, ah, quello è l'unico, tranne che nei pittori e negli scrittori, che sono davvero uno, è difficile che ci sia una figura sola che fa qualsiasi cosa, cioè, in questi giochi così grandi. Anche Kojima, c'è un team dietro, noi spesso citiamo Yoji Shinkawa, come si chiama il suo, diciamo, designer artistico. È mezzanotte, faccio fatica anch'io. Vabbè, noi spesso lo citiamo, cioè lui ha delle figure intorno così, ma è grazie a questo atteggiamento si è diventato una figura così messianica, no? Cioè così... Sì. Nel bene e nel male, cioè perculato, preso per il culo, ma anche, diciamo, sannato, come anche da noi, nel senso, a seconda dell'umore, come ci svegliamo, di quello che fa. Quindi, cioè, mi ritrovo ogni tanto a pensare, sì, ok, che dici Death Stranding, cioè, non l'hanno capito, così, cioè... Infatti, anch'io l'unica cosa che mi viene in mente di parlare in questo momento era... C'erano recensioni che davano 4 a Death Stranding, che gli davano 10... E tu dici che si finisce di più a criticare l'autore che il gioco stesso, in questo caso? Per me, cioè, allora, il caso di Kojima è un po' un'eccezione. Però secondo me è direttamente collegato. Cioè, nel senso, un gioco come Death Stranding, con la copertura mediatica che ha avuto... Ah, sì, anche quello... Se non l'avesse fatto Kojima... Cioè, ok che è bellissimo da vedere il Decima Engine e tutto quanto, però è un gioco... È un walking simulator, cioè nel senso, come abbiamo detto, è comunque più, ha comunque un tipo di gameplay molto di nicchia. E diciamo, il nome di Kojima in quel caso è stato come mettere il nome di, che cazzo ne so, Quentin Tarantino su un documentario su, non lo so, le gazzelle in Africa. Cioè, non so, in mente. Cioè. Sì, il concetto è chiaro. Però. Dai un boost ad una cosa che magari normalmente... Sui piedi. Un documentario sui piedi. Vabbè, il nome di Quentin Tarantino. Ci sta bene il nome di Tarantino su un documentario sui piedi. Sinceramente però preferisco questo tipo di attenzione e di cose di controversia, cioè di opinioni contrastanti, quando è dovuto all'autore, ma idealmente alla casa che l'ha sviluppato il gioco, tipo Deathloop, perché l'alternativa è che tu c'hai un discorso intorno a un gioco perché la casa produttrice ha pagato soldi. No, l'ho capito la referenza. Cioè, quindi... dici, non condanni questo tipo di atteggiamento, solo dici, preferisci questo modo piuttosto che un altro? Perché l'altro modo è, io pago i Game Awards, io pago gli Oscar e promuovo il mio film barra gioco. Cioè, perché è un segreto, penso, di Pulcinella, come si dice, no? Che i film che finiscono agli Oscar e i giochi che finiscono ai Game Awards, una metà forse di più, sono perché le case pagano. Cioè, hanno sponsorizzazioni che promuovono la... diciamo, la diffusione del gioco, no? La pubblicità e il fatto di provare un gioco, essere lì, cioè, sanno tutti, nel senso è... E quindi, diciamo, se Tarantino dovesse fare un film interamente sui piedi, finirebbe agli Oscar, non solo perché si chiama Tarantino, magari, cioè... Ma perché c'è Chris Pratt come protagonista. Esatto. E con questo direi che abbiamo finito. Con questo abbiamo chiuso il cerchio. Perfetta chiusura. Esatto. It's a me, Mario. Quindi io ringrazio chi ci ha guardato e soprattutto chi ci ha ascoltato. Siamo sempre di parte. Io resto sempre di parte per il podcast. E Che dire, che altro aggiungere a questo punto? Grazie per averci ascoltato in questo che è stato un rant alla fine, perché in realtà mi sono sforzato per tutta la puntata di trovare la morale della favola e penso che alla fine fosse solo... Che spratta la morale. No, anche di spratta come morale può starci, dai. Anche un altro nostro piccolo rant e giusto per dirvi... Una grossa... Fate attenti, state attenti ai falsi profeti. Ci può stare anche come finale questo. Mamma mia. Ci sta pure per Chris Pratt. Assolutamente. Quindi grazie ancora per averci guardato / ascoltato. Io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. Io sono Edoardo. Perfetto, ci siamo presentati tutti. E che dire, continuate a giocare. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao.